No, ecco, io quel tipo di cosa che fanno alla zanzara non lo ritengo né giornalismo né satira, sinceramente. Lo ritengo proprio una cosa che non va fatta. Cos'è? Ma gli scherzi dei bambini che fanno... Cioè, sì, pronto? Cazzoni? Sono culone! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Anche io penso solo alla zanzara, non me ne frega più un cazzo di moglie, casa, tasse, multe, non pago più niente. Io voglio ascoltare la zanzara, voglio crepare ascoltando la zanzara. Sì, però amico mio, stai attento, paga sarai le multe. Accontentato. Paga le multe però, pagale le multe, caro amico, tesoro, perché se non paghi le multe, una volta non succedeva quasi nulla. Si dimenticavano i terminali, eccetera. Adesso con le cartelle esattoriali è un casino, cioè tutto automatizzato, non si può sfuggire. Non si può sfuggire a nulla, ti arriva tutto a casa, una cosa incredibile. Per cui ascolta anche la zanzara fino alla morte, va bene. Però le multe pagale. Parenzo quando si incazza mi arrapa proprio, mi arrapa. Addirittura. Molto bene, molto addirittura. Bene. Ma Parenzo è occupato, capito? È in questo momento è occupato, non è può come donarsi. Il telefono, tu. No, no, esatto, non può donarsi agli altri. Allora, qualche secondo prima di entrare in trasmissione mi ha chiamato la 2. Io dico, vaffanculo, ogni giorno devo subire 3-4 telefonate che mi arrivano. Lei ha fatto un questionario per eccetera. Io adesso ho la tentazione di mandarli, ma affanculo in maniera seria, però, non. Ma chi ha chiamato? Non ho capito. Ma non mi ricordo, A2A, non mi ricordo A2A, che cosa. A2A, certo, è l'energia, è il libero mercato. Ma non A2A, ti possono chiamare al cellulare, dovrebbero mandarti una mail, non ti ma possono ti chiamare al cellulare. Dei nuovi contratti, ma non me ne frega perché nulla. C'è il libero mercato e paga di più, cornuto. Allora, la questione degli assorbenti torna d'attualità, Questa mattina hai fatto battaglia col signor Civati, in realtà... Abbiamo ampiamente parlato. Sì, alla racchettina. Signor Civati, che, ripeto, esponente della sinistra italiana, uno dei maggiori esponenti, diciamo così, della sinistra italiana, che finalmente, dico io, fanno una proposta di legge sulla figa, perché di quello si tratta. Io la traduco così. Comunque, la tampon tax, cioè togliere un po' di tasse dall'acquisto degli assorbenti. Io sono totalmente contrario, Parenzo è d'accordo, sentiamoci Vati. Abbiamo raccolto una sfida che è internazionale, che ha appena toccato la Francia. In Francia l'IVA sugli assorbenti è diminuita scendendo a piccolissime percentuali. Le donne si sono chieste perché devono avere l'IVA piena quando non possono fare a meno di usare gli assorbenti. Non capisco l'ironia, c'è sempre filo di sessismo e di scemenza quando si parla di queste cose. Ma adesso non esageriamo, un filo di sessismo, di scemenza, ma che c'entra il sessismo? Io dico semplicemente che siccome... dicono che sono necessari gli assorbenti, lo ripeto per l'ennesima volta, io penso che siano necessarie anche tante altre cose, allora eliminiamo tutto, perché gli assorbenti? No, ma la politica dai, deve ragazzi. Trovare comunque sentiamo ancora deve trovare Civati. Subito delle risposte deve delle trovare delle fa- sei deve veramente banale alcune volte, ieri sei stato poco banale, invece oggi no, inizi ma male perché la politica deve fare delle scelte, deve scegliere di tassare, no, di gli assorbenti non me ne frega niente, gli assorbenti no, allora te... no allora sì, altro sono detto, milioni Cialis, di persone che le usano, senti ancora. Scusami, ultima cosa. Non me, perché io sono d'accordo. No, è ultima... il fatto che si presenti una proposta di legge. E no? Perché invece si può fare, cioè, solo uno magari ha altri strumenti, cioè dentro la finanziaria, ma il fatto che si presenti una proposta la finanziaria di legge, gli emendamenti ce li hanno bocciati. Non riesce a parlare con Renzi da una vita, nemmeno della Costituzione, poi se lo chiama dice ci facciamo due chiacchiere sulla tampon tax, così senza fare grandi leggi, la passi tu direttamente. Capace che Renzi gli risponde grandissima idea. Vabbè, io ho sempre detto, per esempio, che Maurizio Gasparri è un grande uomo di spettacolo, è una cosa che ho sempre detto, no? Dunque, non, non, non mi posso rimproverare nulla da questo punto di vista. Tu pensa che sulla questione già dibattuta lungamente del Capodanno alla Rai, la bestemmia, eccetera, eccetera, Gaspari è intervenuto, credo, alla commissione di vigilanza. Commissione di vigilanza, sì, sì. Ma la cosa incredibile è che ha detto: ma la bestemmia, sì, una cosa grave, però quello che è successo dopo è ancora più grave, perché hanno mandato in onda la canzone. C'era pure Masini, ospite, chi c'era? Anche Masini, no? No, ha fatto sentire lui una canzone. Sì, ha fatto sentire, no, ma sentiamo, sentiamo. Io mi ero anche portato qui l'iPad in cui c'è la canzone di Masini, che si chiama Vaffanculo. A me si è parlato molto della bestemmia e molto dell'orario. A me mi ha fatto più arrabbiare. È una canzone carina che uno può anche sentire, la conosciamo, c'ha 20 anni. Ma che uno a 00:20 il saluto della Rai sia stato Vaffanculo con Masini che la cantava, Quazzalini che cantava Gasparri, Vaffanculo insieme, grazie, a lui. Gasparri, sul grazie, ho capito. Ma se la manda la Rai in casa mia, la posso mandare anche io qua. È un altro siamo discorso. Tutti maggiorenni. Adesso la cosa straordinaria è che si è portato, poi qualcuno lo voleva fermare, si è portato in Parlamento l'iPad, insomma c'aveva il telefonino, sì, l'iPad, quello che è, ha fatto sentire l'audio della canzone di Masini. E poi, scusate, ma qual è lo scandalo? Quella l'ha cantata, non mi ricordo dove, a Sanremo, da qualche sì, altra parte. No, l'ha cantata all'ultimo No, ma sì, dell'anno. Lo so, ma l'aveva già cantata a Sanremo, sì, in altre platee. Vecchissima, vecchissima. Ma dov'è lo scandalo di cantare Vaffanculo a 00:20 su Rai 1? Dai, su, Maurizio, e dai. Allora, cosa succede ancora? Che l'associazione gay.it, gli amici di gay.it, che abbraccio fortissimamente, abbraccio, fanno sempre grandi battaglie, grandi iniziative, grandi spunti, eccetera, hanno pubblicato una specie di lista, qualcuno dice lista di proscrizione, qualcuno dice una specie di, no, come si chiamano, liste di liste sì, di, giusto, di, no, di mettere come, all'indice, chiama come ti pare, di proscrizione, sì. Alcuni deputati, una trentina di deputati del Partito Democratico, che sono contrari, per vari motivi, adesso non stiamo qui ad elencarli, all'approvazione della legge sui matrimonio gay, che però non è il matrimonio gay, insomma, la legge, famosa legge Cirinnà, no? Allora, qualcuno ha detto, beh, una lista di proscrizione, uno scandalo, siamo schedati, ci possono minacciare. Semplicemente sono quelli che sono contrari, poi loro lo fanno a modo loro, cioè presentano tutte le faccine delle persone, certo, invitando i gay, gli attivisti, i militanti della sinistra a scrivere a questi qua perché siete contrari all'approvazione della legge, quelli spiegheranno. Ma qual è il problema? Qual è la lista di proscrizione? Qual è lo squadrismo? Qualcuno ha parlato di squadrismo, dai, non esageriamo, ognuno fa le sue battaglie come vuole, dai. Allora, a Firenze, cosa è successo a Firenze? A Firenze hanno trovato l'assassino che ha confessato della ragazza americana, no? L'assassino reo confesso, però naturalmente non dice tutta la verità, probabilmente, perché dice che l'ha solamente spinta. Comunque la cosa è stata strangolata, poveretta. Sì, secondo le prime indagini sarebbe stata strangolata. Comunque, vabbè, questa, vedremo poi quello che succederà. Questo signore qua è un senegalese di 27 anni, credo, clandestino. Adesso non me ne frega niente di fare la solita polemica sui clandestini, eccetera. Però non è un clandestino qualunque, cioè non è un clandestino che sta rifugiato in un campo a raccogliere pomodori, o un clandestino, che ne so, no, che fa dei lavori un po' nascosti e cerca di sottrarsi alla polizia, che magari ogni tanto becca e ti scova i documenti, e ti scova senza documenti. No, questo qua è una specie di PR, chiamiamolo così, tutto vestito, perfetto, no, giacca, cravatta, vestito tutto di nero, elegantissimo, che distribuisce volantini per vari bar e discoteche di Firenze. Cioè, il clandestino non è quello che noi immaginiamo. C'è uno che entra in Italia, tanto non ti caccia nessuno, stai qui, lavori per le discoteche o per i bar di Firenze, magari spacci anche cocaina, perché questo qua evidentemente aveva in mano della cocaina, la ragazza cercava la cocaina, almeno secondo le ricostruzioni, e nessuno ti dice nulla, capito? Cioè, fai il lavoro come un altro, però non puoi stare in Italia, era venuto qui non so come, per andare dal fratello che viveva a Firenze, bah, mi domando, bah. Ma la cosa incredibile è quello che ha detto l'ambasciatore americano agli studenti americani in Italia, o comunque ai cittadini americani in Italia. Ragazzi, sto parlando dell'ambasciatore americano, non di un cazzone qualunque. Cioè, sto parlando dell'ambasciatore americano. Ha usato parole molto forti. Ma che molto forti? Ha detto una cazzata che manco mia nonna. Cioè, a me non me ne frega niente che l'ambasciatore americano. Cioè, leggo le cose e trasecolo, come si dice in gergo, no? Cioè, e vado ai matti. Cioè, sentite cosa ha detto l'ambasciatore americano. Ma nemmeno mia nonna direbbe una cosa di questo tipo. Nemmeno la tua di nonna, Parenzo, se ancora ce l'hai. Cioè, nemmeno. Purtroppo no. Lo so, no. Anch'io. Però, nemmeno mia nonna, ai tempi d'oro, mi avrebbe detto una cosa di questo tipo. Avrebbe detto, che ne so, alla nipote una cosa di questo tipo. Attenti a uscire la sera. È una lezione per tutti. Bisogna stare attenti quando si esce la sera e con persone che non si conoscono. Cioè, ti giuro, è una cosa incredibile. L'ambasciatore, ma perché non si sta zitto l'ambasciatore americano? Stia zitto, non c'è niente da dire. Questa ha avuto una connazionale, ma questa ha avuto la sfiga. Ma questa qua ha avuto la sfiga. Questa ha avuto la sfiga di trovarsi, quello, però, di incontrare una persona sbagliata, punto. Non è che basta. Ha sbagliato a ma parlare, non è che se uno esce non può. Attenzione alle persone che non si conoscono, ma è normale. Ma siamo nel 2015, ragazzi. Ma di che parliamo? L'ambasciatore americano, attento a uscire la sera e incontrare persone che non si conoscono. Questo è uno che non è che tutti quelli che fanno le 4 di mattina prendono cocaina o vanno a letto dice, con un nero senegalese di 27 anni, sì, clandestino, no, vengono uccisi. La maggior la parte delle volte avevo bisogno dell'ambasciatore. Ma nel 99,9% dei casi, se tu vai con un clandestino nero, quello che è senegalese, spacciatore di cocaina magari, eccetera eccetera, non succede nulla, niente, nulla. Questo ha avuto la sfiga e questo qua gli è partita la brocca, questo è il punto, dai. Oh, cade a fagiolo l'affermazione di Buonanno di ieri sera qui alla Zanzara. Il bromuro. Prima cosa da fare con gli immigrati quando arrivano, clandestini, non clandestini, aspiranti profughi, aspiranti, gente che chiede asilo politico, eccetera, è fare un'iniezione di bromuro. La prima cosa che farei è gli farei un'iniezione di bromuro, perché visto quello che è successo anche a Colonia, lo facevano anche in Italia una volta. Tu che fai quando vai a dormire i sogni tra... La Zanzara. Dici Parenzo, apriamo le danze o no? Apriamo? Apriamo? Apriamo? Apriamo quella che tu chiami cloaca e quello che io chiamo paese? Apri le fogne. No, dai ragazzi, 800240024, apriamo, dai, che apriamo. Scoppiano i tubi. Fabrizio da Genova, vergognati per quello che dici. Fabrizio da Genova, vergognati. Ti danno anche da mangiare. Vergognati, Fabrizio da Genova. Qui, sì, Fabrizio, vai. Fabrizio! Iniziamo bene, ragazzi. Fabrizio, Domenico Varese, dai. Pronto? Sì, dimmi. Ciao Cruciani, buonasera. A te apparenza. Vai, veloce. Allora, io volevo parlare ieri perché non sono... Ma non ti preoccupare, vai dritto, dai, su, non ci rompere allora, le balle con queste storie. Volevo parlare di Buonanno. Sì, vai. Ci ha dato un bel Buonanno quello lì. Sì. Le spara sempre le sue. Vabbè, poi? Ogni volta. Poi? Ma cazzo, non va bene così, dai. Perché lui adesso in televisione la Lega l'ha detto mettiti da parte. Poi cioè, voglio dire, e poi rispara sempre, non la finisce mai. Ma io su quello volevo parlare in un'altra parte, però adesso. No, Domenico, spiegami che cosa vuoi dire, però, perché io non è che ti posso ascoltare minuti per il nulla, capito? Per lo zero. La Lega adesso, prima parlava di separatismo, prima parlava del nord, sì. Adesso vuole andare a prendere i voti anche a sud. Lo sappiamo, già da tempo è in atto questo processo. Dunque, cosa vuoi dire di nuovo? E sai cosa voglio dire di nuovo? Cosa vuoi dire? La stessa fine di questi qua di... 5 Stelle. Vabbè, Domenico, ciao. Giovanni da Parma, non ha niente da dire. Giovanni da Parma, dai, la gente chiama e non ha niente da dire. Contro Buonanno, lo sappiamo. Sei contro Buonanno, l'hai detto. Beh, cioè... questo è già una testimonianza. Ma sì, va bene, ma ci sono un sacco di telefonate contro Buonanno. Dopo te lo faccio ascoltare. Giovanni da Parma, vai. Pronto? Vai, Giovanni, ciao, dimmi. Sono Giovanni, ciao. Ascolta, io ascoltavo ieri che parlavi di questi vegani che hanno voluto fare uno studio sul fumo passivo. Sì, ma non sono vegani, sono qualche associazione di malati di mente, allora, che dice aspetta, è qualche associazione di malati di mente che spiega, purtroppo con l'appoggio di qualche assessore al Comune di Milano, che vuole organizzare convegni sul fatto che il fumo passivo disturba anche gli animali. Vabbè, ma il mondo è vario. Non vogliono perdere tempo, va bene. Vai, volevo Giovanni, portare la pubblici. Mia esperienza, praticamente io ho un gatto che a me dei gatti non me ne frega più un cazzo, però alla mia ragazza gli piacciono così, E quando noi ci facciamo le canne la sera, sì, questo gatto diventa agitatissimo. Perché quante canne vi fate la sera? Ma solo la se- una la sera. Una ogni giorno, una canna la sera. Tutti sì. I giorni quando finisco di lavorare, ti fai un cannone. La canna e poi si fa l'amore, anche perché lei è molto disposta quando sì. si fa le canne a fare l'amore. Ma come ma si lei fa? Lei dice il gatto alla scusami, fidanzata. Scusami Giovanni, ma... No, no, la fidanzata. Ah. Uomo passivo probabilmente, non lo so. Ma perché? Che si succede al gatto? Ah, si agita il gatto. Si agita, inizia a miagolare, a andare a destra e a sinistra fortissimo. È fuori di testa quando... No, occhio però, che gli animalisti scusami. La denunciano, eh? Giovanni... mi denunciano pure. Giovanni, però, scusami, devi avere pazienza. Adesso, io, veramente, tu credi che il gatto in casa ma si agita essere. Perché c'è il fumo? Inala. Perché inala qualche cosa so. Per il fumo passivo? Parlo dai, su, ragazzi. Poi non so se è vero, io non ho gli strumenti per sapere se è vero, non sono un dottore. Può essere, può essere. Non sei un dottore, non c'è dubbio. Senti, ma come si fa all'amore con le canne, dopo aver fumato una canna? Ma è molto bello, cioè, almeno io ho sempre voglia, ma la mia ragazza, secondo me, gli piace molto di più. Ma adesso non pure l'hai mai provato tu? No, perché non mi sono mai fatto una canna in vita mia. E poi non credo. E no, poi ma ti giuro, beh, te lo dico. Oh, guarda, la mia tecnica è molto semplice. Quando i miei amici a scuola si facevano le canne e io mi sentivo di essere un po' indietro, sai, quando sei ragazzino dici tutti si fanno le canne, io non mi faccio niente. La mia tecnica era questa: mi facevo passare la canna, poi non la fumavo, ma come col sigaro, non inalavo. Ma non nemmeno, ma no, e lo so, infatti non faceva niente. Infatti non la provavo e non so che cosa significa farsi una canna perché non ho mai inalato. Provare, io non ho io mai. Ho cominciato a 27 anni. No, perché devo provare? Ormai ho quasi 50 anni, ti pare che mi metto a fare le canne adesso. Poi volevo chiederti un'altra cosa. Tu dici che ti piacciono le donne mature, no? Ma sei già maturo tu? Vai con quelle di 60 anni? Beh, non è escluso questo qua, può anche accadere, può anche accadere. Io sono un maturo giovane però, Giovanni. Quello sicuramente, sono però, maturo ma tu lo sai strano. Che ma tu lo sai che Parenzo che l'Associazione Giovanile dei Democratici, cioè i giovani, quelli che erano una volta gli ex comunisti, no, la fanno, sinistra giovanile, sì, non lo so come cazzo si chiamano, stanno facendo dei corsi per fumare le canne a Milano. Cioè organizzano dei corsi, ti giuro, sulla cannabis. Anche qui siamo sul concreto. Sì, assolutamente su cose molto, ma infatti molto sono concrete. Ottimi corsi questi qua, ottimi corsi. Ma Giovanni, poi farsi una canna non deve essere molto complicato. Ma entrerai in Parlamento. Io non sono capace di farla manualmente. Non ho mai voluto e chi la imparare. Fa? La tua fidanzata? Chi la fa la canna? Sì. Io non ho mai voluto imparare. Cioè, la tua fidanzata forse... che rolla. Sì, è molto divertente. E poi voglio dire un'altra ma cosa. Ma tu vai di marijuana o hashish? O marijuana o hashish, dipende. Preferisco la marijuana. Preferisci la ganja? Sì, la ganja. Sì. Poi comunque, ragazzi, anche vabbè. Coltivare. Lo so, ma infatti il problema è che adesso si discuterà in Parlamento una proposta di legge sull'uso terapeutico che va benissimo, per carità, ma chi ancora se ne frega? Si discute di una cosa ancora che dovrebbe essere scontata. Ancora si discute in Italia. L'uso della cannabis per le terapie. No, ma al di là di questo che non me ne frega niente, sì, me beh, ne frega per quelli che stanno male, naturalmente, sì. Scherzi. Certo, però si dovrebbe alleviare il dolore delle persone. Sì, ma dovrebbe essere consentita la coltivazione. Dovrebbe essere legalizzata la marijuana, legalizzata. Cioè Giovanni che è un cannarolo, giusto? Ti fai le canne. No, beh, non mi ritengo questo. Ma sì, una canna al giorno, sei una canna al giorno, sei praticamente addicted, dai. Cioè, però durante il giorno, quando lavoro, no, Sì, ho capito, perché... ma sei dipendente dalla canna. Ma una no, canna dipendente non credo. Una canna non al giorno, dai. Senza tranquillamente. Sì, dopo due giorni scopri, ti vuoi fare un cannone, dai. Dillo tutto. Tre giorni, dai. È uguale, dai, certo, non è come la dipendenza dell'eroina. Volevo chiedere una cosa a Parenzo, se mi è permesso. Eccoci qua, prego, volevo chiedere se lei, sì. Parenzo, cioè, ha un mutuo da pagare, che la vedo sempre in TV, in tutti no. i momenti, in tutte allora, le che cazzo c'è? No, scusa, no, uno no, va in TV? No, probabilmente deve far su dei soldi, perché avrà dei debiti, non lo so. Sono, come si dice, mutuo esente e automunito, e come si mette nei sentire, curriculum. Ma scusa, ma che c'entra? Scusa, ha chiesto, ha risposto, mutuo esempio. Scusami Giovanni, lo sai che mi dicono amici e amiche che mi scrivono sulle canne? Con le canne duri di più, a letto è un ritardante della venuta. No, a me non sembra. A letto è un ritardante della venuta, a me non sembra. Molti dubbi, dai, molti dubbi su questa cosa. No, io credo di no. Io penso che per la donna sia molto, toglie molte inibizioni, questo... Vabbè, ma quello come l'alcol così. Che c'entra, cioè non è molto diverso. No, certo. Vabbè, Giovanni, abbiamo esaurito tutte le nostre, come dire, curiosità sulla tua vita privata, praticamente una canna al giorno, scopi meglio dopo esserti fatto le canne, il tuo gatto si agita quando voi fumate in casa, dunque probabilmente esiste il fumo passivo anche per gli animali. Abbiamo scoperto molte cose, andiamo a vedere una da Davide. Davide, vai. Davide, da Verona, salve Cruciani, salve ciao, Parenzo. Ciao, dimmi. Ascolta, non è che sia molto normale dire e uscire con un africano spacciatore di cocaina alle 4 di mattina, cioè non è... No, è normalissimo, è normalissimo. No, è normalissimo. È normale. Ho capito. Non è normale, cioè, che cazzo. Ma non ho detto che è normale. No. Ah, facciamo schifo. I valori, No, ma... dobbiamo tornare a dei valori. Cioè, no, non ma, puoi dire ma così. Che dobbiamo tornare esempio, a dei valori, ma non dire cazzate. Cosa dico mia figlia? Fai bene a uscire con tua figlia farà quello che vuole. A drogarsi, cioè, amico mio, arrenditi. Lui insegnerà qualcosa, ha ragione. Però. Sì, d'accordo, arrenditi. Tu dovrai insegnare qualcosa. Ma arrendo, arrenditi tua figlia. Cosa, dove sì. andiamo a finire? E allora uno non insegna a nulla, parte, scusa. A parte che questa qua, non trasmette niente. Questa che è morta era una molto, era un'adulta, cioè non è che era una ragazzina di 10 anni, io di 15 capito, o di 16 ma non anni. È, ma scusami, non è normale. Cioè, qui tutto normale. Cioè, le robe più schifose che uno può pensare, una persona... degna sì, questo... poi no, Davide, normale. Davide non è questione di normalità, io non ho detto che è normale farsi ammazzare da un senegalese clandestino alle 5 sì, di mattina ma e andare l'ambasciatore americano ma, ha che alla... ma che ha ragione, quello è un consiglio ragione, che manco mia nonna non c'è più sicurezza in Italia ma che non c'è tu, più sicurezza, non dire stronzate cioè, alle 11 dai. Di mattina ti entrano in casa e ma quello poi è un altro notte, discorso non puoi più uscire, non c'è, Davide non c'è giustizia non c'è legalità no, Davide c'è, scusa un attimo siamo abbandonati a noi stessi ma, adesso, ma cosa c'entra così. Ma cosa abbandoni. C'entra questo con l'uccisione di una ragazza per sfiga perché ha, non c'è ha, più sicurezza in Europa ma che poteva fare la sicurezza in i carabinieri con questo o la polizia appunto, non riescono neanche loro a far più niente no però scusami Davide io non ho capito una cosa qual è il problema questa ragazza qui era una che a un certo punto ha fatto una serata alle 4 alle 5 di mattina cercava cocaina uno può dire non è normale, però succede. Non è normale. Ho capito, ma non, non è che tutti dobbiamo, cioè. Ma non è che tutti quanti devono finire ammazzati, tutti quelli che cercano cocaina alle 4 sì. di mattina finiscono ammazzati. No, cioè ha pizzicato, per fortuna, no, certo, ecco, esatto, ha pizzicato questo signore clandestino di 27 anni e qui possiamo discutere che non era nascosto a fare i lavori oscuri, ma era proprio il PR di una di alcune discoteche, comunque distribuiva volantini e poi questo qua sono finiti a casa, hanno fatto all'amore, come si dice, sì, hanno vabbè, trombato. Comunque... E poi questo qua si sarà incazzato, pare che abbia detto non mi tratti comunque, come un cane perché questa tornare, dobbiamo tornare un po' a prima di noi, ognuno tornare? Per noi ha valori, ha rispetto del prossimo ragazzi, ma e non farci mettere in piedi in testa noi, cioè io parlo, sono una persona penso onesta, che lavora così non posso aver paura di uscire. Ma quale paura? Ma non succede niente, amico mio, non succede niente alle 4 di mattina, se non avesse trovato questo tornava a casa. Ma te è andato in giro di notte, ma tu vai in giro. Cioè tu, ma dai, adesso perché vuoi fare audience e vuoi... Ma quale audience? È quello che penso. No, penso perché, che l'ambasciatore americano abbia dato un consiglio tutti, stupido che nemmeno mia nonna, dai, ma su. Ma chiunque è spaventato, ormai in Italia è uno schifo, cioè dobbiamo stare attenti a dove andiamo. Scusami, a ma se è pieno di polizia, a Roma adesso è pieno di polizia, esercito, scusa, ogni fermata della metropolitana c'ha vabbè, un... Dai, due no, adesso Roma, ma veramente... Ma che c'entra questo adesso? Scusa. Gli sto dicendo che la sicurezza non adesso... Non c'entra niente adesso questo, nulla. Quello ha detto che c'è paura a uscire la notte, ma la sera. Lui ha paura. Io gli ho detto che qui, in una grande città come Roma... Sicuramente no. C'è quel problema che c'era prima, c'è una quantità ma di militari. Detto? Ma quando mai? Ma dai, non sei, non, se uno non ha niente a dire, non è che deve dire forse qualcosa. Roma è piena non di ci militari. Sono i militari a Roma. Ma sì, ogni vabbè, strada. D'accordo. Tu gira per ma Roma. Che vuol dire? Che c'entra? Ogni strada sono militari, polizia. Vabbè. Giornale radio, torniamo dopo. Parenzo quando si incazza mi arrapa proprio, ma arrapa. Si impara all'estero, l'importante è imparare ai migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero. Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia. Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno. In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga. È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori. A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24. La Zanzara. So you think you'll take another piece of me to satisfy your intellectual need? Do you want action? Cruciani, ora... quella dell'americana, normale. A te, a son di spostare l'asticella più in là, a fine te la ritrovi in culo, eh. Cruciani, dite a Squinzi di mettere a posto le frequenze qui a Cagliari, che sento musica house invece che la zanzara. Allora ragazzi, grande sfida sul nostro sito internet, sul nostro grande sito La Zanzara. Basta che fate su Google La Zanzara Radio 24, poi andate dentro e andate sul sito della Zanzara naturalmente, e c'è il grande sondaggio: state con Mauro da Mantova o state con David Parenzo? Non sai nulla di questa cosa tu, David, eh? Non sai nulla. No, io guardo solo i sondaggi di Libero Quotidiano in genere, però adesso guarderò. Però sembrano fatti da una mano simile, ecco, cioè, sì. Però... Allora, è leggermente in vantaggio Mauro in questa disfida. State con Mauro da Mantova o con David Parenzo? Parenzo, non hai nulla da dire? Ok? Ok! Uno che dice e che nega l'evidenza! Ok! È un coglione! Sai chi è stato a mettere il canone della Rai in bolletta? Coglione. Sai chi è stato? Checco Zalone! Perché scusa, che cosa c'è? Ha fatto in due giorni 22 miliardi, Checco Zalone! È stato lui! D'accordo con Netanyahu e il rabbino capo di Gerusalemme! Scusami Mauro da Mantova, ma cosa c'entra il rabbino capo di Gerusalemme con la RAI? Cosa c'entra? Cruciani! Non lo sai cosa c'entra? E dice no, francamente è difficile capire cosa c'entra il rabbino capo di Gerusalemme. Alla RAI? Cosa c'entra? Ma l'hai visto quell'altro? C'è chi? Trucchetti Brera! Ma sai che c'è? Beppe, quel gatto in testa, Giuseppe. Sai che c'è? Ma sai che c'è? Ma che fai, lo imiti? Lo imiti? Ma sai che c'è? Ma che idiota, sono tutti hanno ucciso. Ma sai che le torri gemelle? Ma sai che c'è? Ma sai che le torri gemelle hanno tirato giù gli animalisti con i vegani? Sai che c'è? Ma sai che è stata Misapia? Quella merda. Ma sai che è stata Misapia a tirare giù le torri gemelle? Sai che c'è? Ma sai che c'è? Aspetta, Mauro. Ma sai che Misapia ha dato fuoco al Duomo di Milano? Lo sai o no che Misapia ha dato fuoco? Ma no, non è vero. Ma sì, lo hai visto? È il Duomo di Milano ha dato fuoco. Sai che c'è? Sai che gli islamici hanno sostituito la Madonnina col simbolo del califfo? Lo sai che Mauro. C'è? Sono stati comunisti. Sai che c'è? Arrangiante sei, coglione. Bene. Grandissimo coglione. Fanno il dittatore da 5 anni. Ma chi? Napolitano, magistratura democratica. Ma che c'entra la bestemmia? Magistratura, ma cosa, ma cosa c'entra con la bestemmia alla RAI? Sono stati loro. Ma perché lo... Ascolta, la RAI. La RAI non si muove un dito se non c'è l'approvazione di chi? Di Sharon, di Netanyahu. Magistratura democratica, ma... e quella marmaglia lì. E c'è stato Netanyahu anche. E Netanyahu e Bibi Netanyahu. Tu lo sai? Lo sai o no? Chi governa la RAI? Lo sai o no? È il rabbino! È il rabbino e Netanyahu alla RAI! Lo sai te? Votate! Però in questo caso mi avete messo, caro Prezzo, mi hanno messo delle robe che sono chiaramente indirizzate a tuo favore. Cioè, tutto pro domo mea. Sono tutte indirizzate a tuo favore. Dunque, comunque, votate sul sito della Zanzara chi preferite tra Mauro da Mantova e Parenzo. Un grande sondaggio, ma che durerà anche, direi, settimane. Potrebbe durare settimane. Intanto andiamo a Padova da Giuseppe, dai. Sai che è morto, Baui? Sai chi è stato? Chi è, no, è morto. De Benedetti è stato. Ma non c'entra. Hai visto che hanno cambiato la Repubblica? Ma che c'entra, scusa? È cambiato. È stato Baui? È morto! Ma no, ma che c'entra? Dov'era De Benedetti quel giorno quando è morto? No, che c'è? È morto di cancro! Eh? È morto di cancro, ma. Chi te l'ha detto a te? E dove l'hai visto? Sai dov'era Baui? Sai? Dov'era? con Ezio Mauro, sai? Ma non è vero. E Scalfari, sai? Ma non è più direttore. Sai chi è stato? Chi è stato? Calabresi è stato, lo sai? Per quello hanno cambiato poi, perché hanno ucciso Bowie. Vabbè, dai, andiamo a Padova, Giuseppe, dai. Miseria umana. Ma che miseria umana? Ma perché devi trattare Mauro che, come un miserabile? Perché dai. È una miseria umana. Vabbè, Giuseppe da Padova, dai. Pronto? Dimmi. Pronto? Ciao, Cruciani. Dimmi. E dai, forza. Allora, io sono, intanto faccio un saluto a Parenzo perché sì. Sono un amico di sua cugina. Ma chi se ne frega? Ma sei amico della cugina di Parenzo? Ma roba incredibile. Ma come si chiama? Come tale. Giuseppe, non so. Giuseppe. Io mi chiamo Giuseppe, la cugina si chiama Sara. Ma chi se ne frega della cugina di Parenzo? Ottimo. È amico della cugina. Vabbè, ma chi se ne fotte? Allora, volevo dire, approfittavo di questa... Ma non approfittavi nulla, non ti do modo di approfittare di nulla. No, per dire che Parenzo dovrebbe consigliare alla sua cugina di seguire i tuoi consigli, cioè? Perché sono molto utili quei consigli che dai tu, cioè quello di uscire la notte fino alle 4, poi farsi accompagnare a casa da uno spacciatore, poi dargli anche la figa, come dici tu. Dagli anche la figa, non importa che sia regolare o non regolare, il fatto che sia uno spacciatore. Però è importante aggiungerlo, sì. E poi gli dai la figa, come farebbe probabilmente tua sorella, e comunque tanto non succede niente, perché l'ha detto Cruciani alla radio. Guarda, Giuseppe, allora, se mia sorella decide, io non ho problemi su questo, è inutile che fai lo spiritoso. Ma scherzi, ma non esiste sto fatto. Ma cosa non esiste? Perché approfitti del fatto che senti alla radio e spari queste cazzate, sostenendo che non succede niente ad accompagnarsi con uno spacciatore alle 4 di notte. Ma non ho detto questo, amico mio. L'hai detto? No, ma la maggior parte delle volte, nel 99% dei casi, anzi nel quasi... Giuseppe, devi ascoltare il giorno dopo. Sì, no, ma non ti preoccupare. Tante volte esageri, e quando esageri lo dovresti riconoscere. Sì, però stai tranquillo un attimo, che ti spiego che cosa ho detto. Non esiste questo. Allora, No, ma tranquillo, ma infatti... Stai tranquillo. Allora, la cosa è molto semplice, ho detto semplicemente, non è che ho consigliato alle donne, alle ragazze di uscire fino alle 4 di mattina, di pippare la cocaina e di andare con immigrati clandestini senegalesi spacciatori, di andare a letto. No, ma no, ma vedi che non hai capito una mazza, non hai capito una mazza, io sono un modesto avvocato, non sono uno intelligente, no, ma scusami Giuseppe, non è questo, ma io non ho detto questo, allora consiglia, io non saluto, ho grazie, no, ma sta, ciao, perché ciao, non vuoi il confronto? Bravo, ma perché non vuoi il confronto? Forte, ma che cosa? Ma forte, forte di... Giuseppe. No, forte, ma non forte. Hai capito niente, cioè Giuseppe, richiamatemi questo cretino un attimo. Forte, cioè il punto fondamentale non è questo, ma forte cosa? Se ne va, fortissimo. Ma che vuol dire? Cioè, ma che senso ha? Cioè, ma non ha nessun senso, no? Cioè, attacca e se ne va, ma che vuol dire? Cioè, puoi fare quello che vuoi, certo, puoi parlare, puoi abbassare il telefono, bravo, complimenti. Dopo aver detto una stronzata, perché io non ho consigliato ovviamente a nessuno. Però c'è una cosa che si chiama libertà, no? La libertà di fare quello che uno vuole senza, come dire, no? Pensare di essere ammazzati. Allora, nel 99,99% dei casi, forse anche di più, se tu fai tutte le cose che ha fatto questa ragazza, tutte le cose, io non le sto giudicando bene, male, le 4 di mattina, la cocaina, il senegalese o il napoletano o il piemontese, non mi interessa. Se tu fai tutte le cose, la maggior parte delle volte, cosa può succedere? Nulla, non succede niente. Forse hai messo le corna al tuo fidanzato, può succedere un po' di casino con il tuo fidanzato, ma magari non si sarebbe saputo se non fossi stata ammazzata. Il punto non è quello, il punto è la sfiga, questa si è trovata. Ha avuto una sfiga pazzesca. Cioè, certo, se uno resta a casa alle 10 di sera e si sveglia alle 7 di mattina per andare a lavorare, non accade quello che è successo a questa ragazza. Però non è il fatto che lei cercava la cocaina, non è che cercava, che ha, come dire, ha trovato un feeling con uno spacciatore o presunto tale senegalese. Non è quello il punto. Il punto è solo la sfiga, perché se qualcuno fa le stesse cose che ha fatto lei, nel 99,99% dei casi non muore. Il punto è la morte. Non è che trovi uno che ti ammazza. Quella è la casualità, la sfiga. Ma d'altra parte, se resti a casa, Parenzo, ti può succedere che ti entra qualcuno dentro casa. Beh, anche se vai a letto alle 10 di sera, magari qualcuno entra dentro casa tua e ti ruba dentro casa tua e ti ammazza. Può accadere, cioè, anche ragazzi, quello, dai. Può accadere quando attraversi una strada. Io ma non che ho detto dire che quello? Bisogna fare quello che ha fatto questa ragazza. Cioè, non ho detto questo. Non ho affatto detto questo. Chiaro? Lorenzo da Catania. Cruciani. Dimmi. Sì, ciao. Forse innanzitutto che tua nonna forse non ti diceva tanto minchiate e quindi diciamo anche minimizzare sul fatto. Ma io non sto minimizzando, l'ambasciatore americano ha detto una puttanata. Cosa doveva dire? Ma io l'ambasciatore americano, state attenti a la droga è illegale, quindi chi traffica con la droga sicuramente ha a che fare con ambienti diciamo un po' pericolosi. Ma chi l'ha quindi detto? Ma quando mai? Ti sembra di avere un po' di pelo sullo stomaco. Se te le vai, se tu esci e ti porti a casa uno che ha a che fare con ambiente di delinquenti, sicuramente è anche più pericoloso. Non dico che siano le 4 di mattina, non dico che sia un senegalese, ma uno che ha a che fare con un ambiente di delinquenti si diventa una persona un po' più a rischio. Quindi in questi termini puoi interpretare le parole dell'ambasciatore americano. Cosa doveva dire? L'ha detto in maniera sobria. L'ambasciatore americano ha detto una stupidaggine anche, che nemmeno sì, mia nonna non è che poteva dire nulla di diverso, però la sapeva più lunga di te. Stai a te, state attenti alle persone ma, che state attenti quando uscite, che, dai. Ogni volta che tiri fuori qualche argomento dove si parla minimamente o anche più espressamente di sesso, di intimità, non è che l'ho tirato fuori io, che si evince dalle tue parole, dal tuo tono, proprio di classico represso di quando eri ragazzino, che sicuramente la vedevi col cannocchiale, e ora un pochettino ne parli un po' più liberamente. Non ho capito una cosa, che cos'è che vedevo col cannocchiale? Il sesso. Il sesso lo vedevo con cannocchiale. Sì, sì, certo, no, non vorrei non vorrei deluderti. Quella bavetta di quello non c'è nessuna bavetta, amico mio. Se c'è una cosa, io per carità, mi sono mancate tante cose nella vita, come a tutti, però guarda, ti assicuro che da quel punto di vista non mi è mai mancato nulla, mai. Cioè, chiaro Lorenzo, ma non è un'esaltazione questa qua, non vuole essere un'esaltazione, però da quel punto di vista non c'è nessuna repressione che ho avuto, cioè non c'è nessun problema che ho avuto quando ero ragazzino. No, perché sai, poi sono cose che si portano dietro. Ma ti assicuro che non mi porto dietro nessun tipo di frustrazione, guarda, non mi porto dietro nessun tipo di frustrazione. E in questo discorso della ragazza americana uccisa il sesso ha oggettivamente una parte molto per fortuna grazie al DNA, forse credo grazie anche al DNA del preservativo trovato, hanno trovato il colpevole. Poi tra l'altro la cosa assurda è che c'è l'esaltazione di aver trovato il colpevole subito. Beh, vabbè, quello sì, d'accordo, ma questo era clandestino, meno male, però. È anche legittimo, sì, ma gli investigatori questo dicono... faceva il comodo suo in giro per Firenze, eh? Clandestino senegalese, faceva il comodo suo in giro per Firenze, spacciava probabilmente, faceva il PR delle discoteche, stava lì tutto incravattato. Sarà strana questa cosa o no? Questo non è normale. Questo non è normale, non che una faccia alle 4 di mattina il pipi cocaina e poi si porti a casa una per scopare. Questo è normale, quell'altra cosa non è normale. Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Lo sai che c'è? Non ce la faccio più. La zanzara. Cari amici miei della zanzara, siamo al top, siamo veramente al top! Ma avete dato degli steroidi a Parenzo? Lo vedo aggressivo. Allora, buon anno ieri sera alla Zanzara, mix buon anno, vai, ne ha dette di tutti i colori. La prima cosa che farei è gli farei un'iniezione di bromuro, perché visto quello che è successo anche a Colonia, lo facevano anche in Italia una volta. L'idea è questa, intanto bisogna riconoscerli, adesso io ho quello del microchip, è ancora una cosa più evoluta, però per riconoscerli, per fare in fretta, devi mettere un capo d'abbigliamento dove sono riconoscibili. Ma una stella gialla magari, no? Scusa, è come la pettorina che c'è quando... È la stella gialla, è uguale a quello, no? È la stella gialla, è la stessa cosa. No. Metterei dei microchip sotto pelle, sì, per avere tutte le informazioni su tutte queste persone, per avere tutte le informazioni che necessitano. Allora, per non saperne leggere né scrivere, requisisci tutto, perché ti costano comunque un sacco di soldi. Sì. E questi soldi che tu requisisci, o il materiale che tu requisisci, che ne so, con cellulari, pure cellulari. Ma sì, ma certo. Sì. Perché? Ma con i cellulari sequestrati, che fai? Che ci fai con i cellulari? No, no, poi si possono anche utilizzare, possiamo anche darle ad altri che ne hanno bisogno, come tanti italiani che non hanno i soldi per il cellulare. Però Parenzo, a sorpresa, perché poi tu sottovaluti gli ascoltatori della Zanzara, cioè li sottovaluti, li disprezzi, in alcuni casi li disprezzi. Non li valuto proprio. No, non li valuto, appunto. Uno sottovaluta una cosa che valuta, invece io non li sottovaluto. Sì, perché non ami il confronto, capito? No, non ti piace il confronto. No, voglio scegliere i miei interlocutori. Ah, voglio scegliere gli interlocutori. Ho questa libertà. Sì, sì, però ti piacerà quello che è arrivato, moltissimi messaggi che sono arrivati al 393-71-71-701, che è il numero per i messaggi WhatsApp. Ma con le tasse che pago c'è stipendio pure buon anno? Mamma mia che paura, mamma mia. Buon anno andrebbe marchiato a fuoco in fronte con la dicitura coglione. L'unica cosa che riesce a farmi diventare simpatico Parenzo è la sua considerazione che ha nei confronti di buon anno. Mamma mia che vergogna, buon anno è una vergogna proprio. Buon anno, cazzo, il microchip devono mettertelo nel cervello per vedere dov'è, perché sei troppo ignorante. Crucian, sbaglio o c'è una certa analogia tra la descrizione della merda del professore lì che ci raccontavi e l'idea di buon anno? E così a occhio, ascoltando un attimo l'intervista, no, il cervello di buon anno non galleggia. Buon anno, ma che cazzo dici? Gli prendi i telefonini agli immigrati e li dai a quelli che ce ne hanno più bisogno, gli italiani che magari ce ne hanno più bisogno. Ha bisogno di cosa? Di un cellulare? Ma che cazzo dici? Gli prendi i soldi, se vuoi prendergli i soldi, e comunque glieli stai fottendo. Ma perché devi seguire le puttanate dei danesi? Ma che cazzo dici? Capito Parenzo? Adesso questi vanno bene naturalmente, eh? Questi vanno bene, questi vanno bene invece. Vedi che sei contraddittorio, dai, lasciamo perdere. Carmine da Verona, dai, Carmine questi da Verona. Questi vanno bene, no, vanno bene anche sì, questi. Nemmeno però. Questi vanno bene, però Carmine da Verona, dai. Se devo scegliere una persona, ma non puoi scegliere, arriva quello che arriva e ti confronti con tutti, dai. Ma no, solo dici, con chi vuoi andare a cena? Con nessuno di questi. La cena, dai, Carmine da Verona. Con nessuno dai. Di questi proprio. Va bene, andare. Dimmi. Buonasera. Dimmi, dai, forza. Allora, è un ambiente che lo conosco molto bene. Ma è quale normale. Ambiente? Quale? L'americana, che è ma morta. Che ambiente conosci? Che stai a Firenze, tu? No, oh, è uguale, sta a Verona è uguale. Allora, il mondo degli spacciatori, sì. Queste ragazze di oggi, sì. Che le dicono i puritani, pippano e trombano più di tutti. Per pippare gratis, a Cruciano, trombano gratis. Cioè non ho capito, spiegami adesso, siccome questa qua è morta, questa signorina, è americana, dunque possiamo essere in teoria anche più liberi, no? Perché non c'è nessuno che ci querela se diciamo qualche stronzata. Sì. Questo è abbastanza chiaro. Però, purtroppo dico, però, amico mio, che vuol dire? Cioè che secondo te questa cercava di pippare gratis? Qual è il punto? A Cruciale, tu se vieni a Verona, te li porto a vedere io. Cosa? Allora, io abito a Verona, lavoro a Milano, non ci metto niente a venire a prendere. E ti faccio vedere, facciamo un giro di Zanzara by night. E ti faccio vedere quanti africani vendono la bamba, quante troie la pippano e quante scopano. Ma che vuol dire? No, ma Carmine, nella sua crudezza, vuole dire una cosa che poi deve essere valutata dai magistrati per quanto possa valere, sì, eccetera, eccetera. Sì. Cioè lui sta dicendo che questa ragazza, secondo lui, non so quali informazioni, cercava droga gratis e per questo si è portata a secondo casa la sua l'uomo di colore senegalese clandestino e dopo è finita male, punto, e in cambio della droga, diciamo... È normale. Sì, allora, nel mondo della notte, noi che siamo nottambuli. No, io non sono nottambulo, per cui... Non sto parlando di te. Noi, io. Sì. Noi, io e tutti i nottambuli che mi seguono. Tu sei nottambulo? Cacchio? Sì, ma scusa, Pippo è nottambulo. Pippi pure? Cazzo? Beh, no, ma così, ma per carità, la Zanzara, per carità. È una tua scelta, è una mia scelta. No, è una tua scelta, perché... Non dare condone a te, ma qua... a Parenze, no, assolutamente, ma quanto Pippi, scusa, per curiosità? quanto pippo? Un grammo, due grammi a notte. Un grammo, due grammi a notte? Sì. Viste le cose sconnesse che dice, non mi fa strano. No, ma scusami, Parenzo, però perché dice cose sconnesse? In realtà non sta dicendo delle cose sconnesse. Ancora non ha pippato oggi, evidentemente. No, non ancora devo arrivare a casa. Sto ancora lavorando. Stenco, ma che fai di lavoro? È lavoro. No, ho capito, che fai? Spacci? Che fai? No, non spaccio. No. Che lavoro fai, Carmine? Io lavoro su strada. Vabbè, se fai l'autotrasportatore. Bravo. Sì, però amico mio, uno che fa l'autotrasportatore non dovrebbe... È meglio non mettersi in macchina. È meglio non pippare due grammi al giorno. Lo so. Lo so. Fermatelo. No, beh, adesso lo vuoi denunciare, scusami. Lo vuoi denunciare anche a Carmine da Verona? Fossi in macchina in questo momento, sì. Siccome sono in uno studio radiofonico... Fossi in macchina lo denunceresti? Beh, sì, fossi in macchina e sentissi... Ma perché devi denunciare tutti? Questo sta raccontando la sua vita. Devo denunciare sapere uno... Sapere che c'è un signore autotrasportatore che fa abitualmente uso di cocaina. Ma me ne frega, se salva la vita, salvi una vita, salvi il se mondo salva intero. Salva la vita, sei tornato un po'... Se salvi la vita, salvi il mondo intero, Ma scusa, sapere che c'è un pericolo per strada di un signore che pippa e che è in macchina, francamente però, mi fa un po' paura. Torniamo a Carmine, che è interessante. Scusa, Carmine, no, io ti dico, ti capisco. Io non pippo, dov'è, non mi sono mai drogato. Dove mi strada? Pippi, Dove comunque si trova? Comunque, posso dire che ho praticato anche Firenze, sì. E anche là che ne conosco. Che conosci? L'americana a Roma? Ma l'americana... lascia stare l'americana. L'americana è stato un caso, quindi lascia stare, non è questo il punto. Che conosci? Il mondo della notte, va bene. Il mondo degli spacciatori, maggiormente gestito dagli nordafricani. Ma tu dove la pigli sta cocaina, Carmine? Dai nordafricani pure tu? La vendono solo loro, Vabbè, sì, ma quelli sono, come dire, dei soldati di altri, probabilmente italiani, che hanno la droga in mano, no? Scelta loro, non la fanno per loro. Carmine, io non ho capito, come fai a campare pippando due grammi al giorno, come dici tu, poi magari bisogna vedere, uno o due grammi al giorno, riesci a campare tranquillamente? A notte, no, giorno, vabbè, a notte è uguale, sempre di giorno è, a notte. Vale per un giorno. Come fai a campare? Campo uguale. Campi benissimo. Alla grande. Sembra Totò fino a quando il cuore mi tiene in vita. Ma cosa ti eccita, cosa ti provoca questa roba qui? Io, ragazzi, questa roba qui non bisogna farla, diciamolo chiaramente, perché cruciati, ci accusano di apologia della cocaina, cosa lontanissima. Cruciati, vengo a prendermi, ti offro una serata solo la cena, dai, poi ti faccio vedere. Ma perché mi vuoi offrire la cena? Io, per carità, perché io amo. Allora, sei una realtà vivente, così quanti coglioni. Quello vivente, non c'è dubbio. Faranno i puritani, perché faranno i puritani che escono alle 8 di mattina e alle 5 si chiudono a casa e non sanno un cazzo e criticano solo, anche compreso l'avvocato, ok? Tu potrai contrabbattere. Ma scusa, l'avvocato quale dici? Quello che hai chiamato. Che poi tu l'hai richiamato. Ah, l'avvocato di Padova, amico, l'amico della cugina di Parenzo, sì, che dice che non è normale. Ma io non è normalissimo. Adesso, ragazzi, non esageriamo. Non è che le 4 o le 5 di mattina c'è un... Crucia, tu non puoi andare in un locale a prendere un senegalese che non lo conosci, che fa un PR che non sa un cazzo di italiano, non batte una parola di italiano. Che ne sai? Da quando stava in Italia? Non lo so, da qualche anno. Ma che ne anno, sappiamo? Ma tempo. Sono tutte cose che... Parla di quelle che non sa. No, però scusa, Carmine è un frequentatore. Carmine è un frequentatore delle notti. Ma che ne certe dinamiche. Come puoi andare? Te lo porti a casa. Te lo porti a casa perché tu hai la bamba gratis. Perciò ti porti un senegalese a casa. Questa è un'ipotesi, plausibile. Ed è l'ipotesi su cui peraltro... Come si chiama questo? Carmine. Tenente, sì. Carmine, ho capito. No, ma non ma è... Tenente Carmine, pare. Tenente Carmine, va bene. No, Tenente Carmine ci ha spiegato la dinamica. Più del Freccia Rossa non prendi, quindi lascia sta parete. Più del Freccia Rossa, prendo dire... anche gli interregionali, amico mio. Freccia Rossa quando viene su e poi scende giù, lascia sta. Però prendo, Carmine, anche gli interregionali. Carmine evidentemente conosce alcune dinamiche e ci sta dicendo una cosa. Ci sta dicendo che per il popolo della notte, quello che è successo per il popolo, quelli che fanno le 4-5 di mattina, vogliono fare la serata, la cosiddetta serata, magari si drogano, bevono. Io non faccio nulla di tutto ciò e lo sconsiglio nella maniera più assoluta. Però io penso anche che ci sia la libertà di farlo, ecco. La libertà di farlo, ovviamente, senza violare la legge. Carmine è uno di quelli che ci sta dicendo che lui pippa non so quanti grammi, 1-2 a notte. Perché si sente meglio? Come ti senti dopo aver pippato? È questo che mi incuriosisce, Carmine. Scusa. Allora, ti senti da, ti dà forza, ti carica. Amico mio, ti carica, però fa male al cervello, fa male al cervello, fa male... fa male il caffè, fa male... No, vabbè, insomma, è un po' diverso, vecchio mio, Carmine, dai, su. È un po' diverso. Non voglio che si fumi in casa, perché il cane respira il fumo passivo, l'amico mio fumava la canna e quello mi sta bene, caso mai se sai il numero di telefono dove prende l'erba, che è buona, perché il gatto si fa, è un buon contatto quello... sì, ho capito, così. Carmine, però adesso non è ci vuoi venire qui da noi, puoi venire qua a fare l'apologia della cocaina, perché noi no, non faccio l'apologia. Evidentemente no, se non sai smettere, è una scelta mia, libera mia e mi assumo le mie tra l'altro vita, scusa, quindi... per tornare a una cosa, poi mi dicono che sono fissato con la cocaina, niente, non tira più nulla. No, allora se fai la prima botta decente ci vai, la seconda anche già dalla terza botta in poi non vai, ti sale la pornografia assoluta, la perversione, ma sì. non ti eccidi, non ti appinto al cazzo. Appunto dico. Chiedo la verità, quindi tu ne sai qualcosina. Ma non lo so, perché conosco delle persone. No, lo so qualche cosa, perché ci sono delle persone che me lo raccontano. Che vuol dire? Cioè, non è che sono ignorante da questo punto di vista. Sto dicendo bugie, c'è nessuna novità. Vabbè, Carmine, è stato molto bello. Ciao. Ciao. Carmine va denunciato, non credo che chi lavora con la patente possa fare queste robe qui, perché ci sono le visite antidroga, non lo so che lavoro fa esattamente, che tipo di autotrasportatore, no? Io tendenzialmente ci credo, no? Cioè, era abbastanza spontaneo, dai, su. Allora, ma vi ricordate, ieri ne abbiamo parlato, credo, no? Della signora islamica, ospite di ragazza di 22 anni islamica, ospite di Ballarò, la quale non ha voluto baciare Pippo Baudo. Risentiamo la scenetta, una scenetta molto bella, molto televisiva, devo dire, anche se assolutamente casuale, non costruita, ma sono, le cose che funzionano di più, in cui Pippo Baudo a un certo punto, durante una discussione, la solita discussione sull'integrazione, l'islam radicale, cosa il rapporto dell'islam con le donne, colonia, le mani nel sedere, eccetera eccetera, dice: vabbè, ti voglio dare un bacio. Io vorrei migliorare questo paese. Mi piace, partendo... io vengo a darle un bacio. Ecco, meno male, via. No, un bacio, non mica stringe solo la mano. Una mano. Non è possibile, va bene, non si può. Preferisce la Pippo, mano. Non si può, ma... Pippo, non si può fare. Ma io voglio integrare. Vabbè, il tentativo è riuscito lo stesso. Anche senza bacio è andata bene lo stesso. Ma sei un infedele, adesso... non si può fare. Perché... Allora, la signorina islamica, 22 anni, col velo rosa, era con un bel velo rosa, bello, orrendo secondo me, velo rosa. Io non ci trovo nulla di interessante. Stavo dicendo una cosa che non voglio dire, lo dirò più tardi, sul velo, l'unica cosa che mi piace del velo, ma lasciamo perdere. Si chiama Chaima Fatihi. Io proverei a fare una telefonatina, perché la cosa interessante è capire perché ha detto, è abbastanza chiaro perché l'Islam, no, i contatti con le donne, eccetera. Però magari esce fuori qualcosa di interessante. Perché ha negato un bacio, che è una cosa normale qui in Occidente, baciare una persona come forma di saluto, no? Ci baciamo un po' tutti, se c'è un minimo di intimità ci si bacia. E credo che sia una cosa abbastanza normale. Per carità, non voglio dire che sia obbligatorio. Sì, i russi si baciano in bocca, ad esempio, ma sono tradizioni, no? Se tu vai in Russia, come nei film te lo fanno vedere, no? Sì, comunque. Ti baci, ti baci in bocca, poi ti abbracciano. Tu dici, quella tradizione lì non prevede... Che ognuno... No, dico quella, perché poi c'è ad esempio la tradizione dei paesi del nord. Una donna con i tacchi, per esempio, una col velo con i tacchi, l'hai mai vista, il tacco? Come no? Io sono da Dubai, ma non lo so, il tacco, A Dubai era pieno. E il tacco? Sì, come no? Chaima Fatih, becchiamola, dai, forza, fatemi sto numero di telefono, speriamo che risponda questo. Chaima? Sì? Sì, buonasera, qui Radio 24, disturbo? No, non c'è nessun disturbo. Ciao, ciao, volevo sapere una cosa, ciao. Ma sì? Non hai voluto baciare Pippo Baudo ieri sera? Sì, è esatto. Ma come mai? Perché innanzitutto credo che far passare un messaggio per cui un bacio serve per integrare una persona sia alquanto una cosa di livello proprio basso. Inoltre, cioè, che vuol dire livello basso? Che lui si è comportato male, dici? No, semplicemente magari aveva era in buona fede. Semplicemente dire che serve un bacio per integrare una persona non è corretto. Ma chi l'ha detto questo? L'ha detto lui. Ha detto bacio per integrare. No, poi c'è l'aspetto anche religioso, salve solo Parenzo, che io capisco invece che le donne non possono abbracciare, che vale anche per l'ebraismo, le donne non possono abbracciare altri uomini se non il proprio marito, ma io questo lo capisco perché è una norma. Ma tu per questo non l'hai baciato? No, sicuramente è anche un fattore religioso e questo è in primo luogo. Comunque è anche un segno di rispetto, penso, anche per altre donne che non siano né musulmane né niente, il fatto che non una persona che non conosci non stai a sbacicchiarla al primo incontro, penso, e questo lo hanno constatato molti. Seguendo la religione, lui non poteva nemmeno fare il baciamano. Ma in realtà io ho teso la mano in una stretta di mano, poi... Lui se l'è presa, diciamo, la mano e l'ha baciata da solo. Sì, in realtà non mi ricordo, era accaduto così tutto all'improvviso. Certo che nell'Islam, però, tu sei islamica, le donne vengono considerate, diciamo la verità, no? Poi bisogna vedere dove, dipende quando, perché... Dipende dai paesi. Ma vengono considerate... Non dalla religione. Non dico uno scarto, ma quasi, o no? In questi paesi qui sicuramente ci sono tanti problemi a livello culturale, tradizionale, che non hanno nulla a che fare con la religione. Soprattutto sono questioni che sono molto tribali e che non hanno nulla a che fare con la religione. Beh, però di base c'è la religione. Vorrei anche dire che dobbiamo pensare un attimo e ritornare all'Italia e vedere quanto realmente le donne sono libere di poter andare in giro, quante le donne sono libere e soprattutto libere dalle violenze domestiche che vengono perpetrate quotidianamente nella nostra patria. Però in Italia le donne sono libere rispetto ad altri paesi dove a maggioranza islamica sono molto più libere, e questo si può dire, ma o no? Ma scusi, le donne sono veramente libere di poter girare come vogliono la sera nelle grandi... Ma è abbastanza. Non credo. Nell'Islam la donna, diciamo, se non viene interpretato male, la donna ha gli stessi diritti dell'uomo, giusto? È così. Anzi, vabbè. Forse voi. È anche migliore rispetto agli uomini. Addirittura, sì. Ha un ruolo maggiore rispetto agli uomini, se viene interpretato bene. Beh, certo, assolutamente. Grazie, molto gentile. Grazie a voi. Saluti. Grazie. Ma ragazzi, ma come si fa a dire che la donna nei paesi islamici o a maggioranza islamica ha gli stessi diritti dell'uomo? È proprio una roba falsa, cioè non esiste, è proprio una roba falsa. Dipende da paese a paese. Ma è falsa totalmente, cioè le testimonianze valgono di meno, non parliamo della questione che viene sempre ripetuta. Tu parli della... di paesi diversi, cioè l'Arabia Saudita, la Giordania è già diversa dall'Arabia Saudita ad esempio. Se no? Vuoi sottoscrivere un documento... Non c'è dubbio. Ho capito, ma sono paesi islamici, certo non in tutti, ma in moltissimi paesi islamici è così. Come si fa a dire che addirittura, come dice questa signora, che non ha voluto baciare Pippo Baudo, che hanno gli stessi diritti se non di più delle... E poi dice anche da voi non si può girare, certo detto oggi, dopo l'ammazzamento di questa ragazza americana, però lasciamo suona prendere sinistro, sì, però non è questo il punto. Dai, come si fa a dire anche da voi non possono girare liberamente le donne e hanno per ma sono due cose diverse, dai. Mirella Genova, dai Mirella. Sì, pronto, buonasera. Dimmi Mirella, dimmi. Allora, io sono molto indignata con la signora Serracchiani. Sì, la signora Serracchiani, perché si è indignata con la signora Serracchiani? Sono indignata perché come rappresentante di uno Stato io non mi copro il capo. Sì, ma guarda, ci sono tanti altri esempi, tra l'altro. La Serracchiani ha fatto dei tweet mostrando varie delegazioni di capi di Stato e non... Ma certo. Ma ci sono anche casi contrari, guarda. Ci sono anche casi contrari, cioè opposti, di persone sì, che non si lo sono coperte... Sì, ma non una questione, come dire, uno scandalo internazionale, un caso di politico che si inchina... Ma perché sei scandalizzata tu, Mirella? Non ho capito. Non si capisce. Il copristi il capo, il signor Parenzo, ora non so quanto... sia ancora in vigore questa cosa, le donne prima di sposarsi nella sua religione si rappavano i capelli e poi si mettevano la parrucca. Nella religione ebraica, da quando una donna si sposa ha l'obbligo di coprirsi il capo quando esce. Vabbè, ma che i capelli è, sono dedicati al il marito, ma è una questione, lo sta dicendo lui, l'obbligo, se tu mi obblighi a nessuno mettere ti obbliga, qualche cosa che mi, no, l'ha appena detto il, ma cos'è che ti ha dato fastidio, non ho capito che cosa, appunto, essendo un qualcosa che mi copre, e quindi io vado a capo scoperto. È un segnale della inferiorità della donna, questo è evidente a tutti, eppure noi ogni tanto ce ne fottiamo e davanti agli ayatollah andiamo col volto semi coperto, e questo secondo me è una vergogna. Dai, io lo dico, io dico quello che penso, che è questo. Voglio più zanzara e meno pubblicità. La zanzara. Io vi dico soltanto che sono rimasto a piedi con la macchina perché probabilmente la batteria non regge più. Sta venendo a prendermi un amico con i cavi della batteria, però comunque non me ne frega un cazzo perché ho la radio accesa sulla zanzara. Ragazzi, vi volevo dare una comunicazione straordinaria. Sono probabilmente la prima e immagino ultima persona al mondo ad aver scopato grazie alla zanzara. Proprio così. Ero in un bar dove stavano trasmettendo una vostra trasmissione settimana scorsa e c'era sta ragazza tutta fighetta, un po', sapete, quelle snob, che faceva brutte facce come se non vi seguisse. Io sono intervenuto criticandovi aspramente da cosa nata cosa. Dopo solo una decina di giorni me l'ha data. Grazie ragazzi! Servizio pubblico zanzara. Siamo qui 800 24 00 24, andiamo a Stefano da Milano. Stefano, vai. Pronto? Dimmi. Sì, ciao, no, volevo dire esattamente, volevo confermare quello che ha detto Carmine. Cioè? Io sono di Milano, ho delle quote in dei locali a Milano e voglio confermare che effettivamente innanzitutto 10 ragazze, 7 ragazze su 10 pippano. Sì, ma quelle che vanno, 7 ragazze su 10 che vanno nel tuo locale, però. 7 ragazze su 10 che vanno nel tuo locale. No, te lo posso garantire, non nel mio locale. E se una volta magari la ragazzina potevi anche comprargli un paio di scarpe, una borsetta, magari portarla via. Adesso assolutamente, tu basta che gli dai, sono storie che sento tutti i giorni. No, ma ma che significa 7 ragazze su 10? Che statistica è? Di che età, innanzitutto? Dai 19 fino ai 30, 32. Cioè, tu stai dicendo che secondo la tua esperienza di gestore di locali milanesi, 7 ragazze su 10 tra i 19 e i 35, diciamo, una cosa del genere, pippano cocaina. Sì, modelline, ma non solo, attenzione. Modelline non è che sono un test, non sono una percentuale significativa, scusami Stefano. Sto dicendo dalle modelline fino alle ragazze di buonissima famiglia milanese. Cioè sì, no, cosa che non sia trasversale non c'è dubbio, ma quello è evidente, che Milano sia una città. E dalla modellina alla ragazza di altissima della borghesia, o comunque di altissima. Tu, se dopo la serata la porti a casa. Cioè, tu dici che la cocaina è un mezzo. Ahimè, è un allarme sociale. Sì, ma dici un mezzo per trombare. È un mezzo per trombare, sì. E non è più, ripeto. Ed è ha superato qualsiasi altro mezzo, che sia i soldi, che sia le scarpe. Che cioè ha sostituito il classico ti offro un bicchiere di vino, capito? Assolutamente. Una volta si dice ti offro qualcosa da bere. Come no? Tu, perché non hai mai offerto un cazzo a nessuno, ma il genere funziona così. Ma no, ma ho capito, ma questo però fa parte di un certo mondo, non è che può essere generalizzato. Dai, su, è il mondo di chi fa le 2 di notte, le 4 di mattina. Questo sta dicendo così, questo signore qua. Cioè, Stefano, non è che può essere generalizzato. Tu dici 7 ragazze tra i 19 e i 35 anni. No, attenzione, Carmine parlava del sud, del nord africano. No, qua sto parlando di belli. No, sto parlando, ma di roba da strada, eh. Sto parlando proprio. È brutto dirlo, ma è effettivamente così. È effettivamente così. Vabbè. È terribile. Ciao Stefano, ciao. Aldo Torino, vai. Pronto? Dimmi. Pronto, mi senti? Ti sento. Cruciano, mi senti bene? Cruciano, sì. Anche va bene. Sì, dimmi. Va bene, senti, ti volevo dare una notizia. Sì. Una notizia importante, guarda, a parte gli scherzi, ma questa sembra una notizia importante. Io ho un caro amico Sì. che è venuto a caccia con me per tante stagioni. Sì. si è innamorato di una degana e l'ha fatto diventare anche lui degano. E sì, mi ha fatto una confidenza. Sì. Ma mi senti bene? Cosa dico? Io ti sento molto benissimo, bene, certo, ti sento benissimo. Boh, sono contento. Allora, i degani e i suoi alleati, animalisti e mangiatori, i nemici della caccia e dei carnivori, stanno organizzando per presentare una lista politica alle prossime elezioni in autunno. Sono sicuri di arrivare. Quale a autunno? L'autunno di quest'anno. No, ma autunno, si vota in primavera, a giugno. No, no, che no, in autunno. Vabbè, gliel'ha detto. Senti, loro hanno avuto la previsione dal divino, il quale gli ha detto da che chi si voterà dal divino. Chi è? Da Otelma. Il divino non è lui. Sì, allora, fonte attendibilissima. Guarda, certo, che non è, Giuseppe, non è uno scherzo. Allora, loro si stanno organizzando per presentare una lista politica, sì, contro la caccia, contro i carnivori, e sono sicuri di ottenere il 22-23%. Sì. Se l'ha ottenuto Grillo, mio nonno in cariola, sì, certo. No, ma non è una bufala. Giuseppe, credimi, guarda che questo amico mio, che è carissimo è diventato amico tuo, certo, degano, sì, per amore, perché ha trovato una degana e lui le piaceva. E lei perché ha sentito la necessità di comunicarci questa notizia bomba che sì, vede già battuta amico da tutte le agenzie di stampa? Cioè, gli ambientalisti e i vegani si presenteranno alle prossime elezioni. Beh, se alle prossime elezioni. Enrico da Torino. Si presenteranno le proprie elezioni. Vabbè, vedremo. Beh, ce ne faremo una ragione. Aldo da Torino, ottimo. No, ma aspetta, non c'è è di uno più scherzo. C'è di più. Io ti voglio bene perché vi seguo sempre. Io un giglione lo seguo sempre. Senti bene, questo mio amico è arrivato al punto di sgaiottolare alla sera. Viene a trovarmi qualche volta da me, sì, e viene mia moglie, che è bravissima a fare la lepre al civè, al barolo, sì, il filetto di cinghiale che piace a te con le patatine, sì, e le cipolline. Prima di andare via da casa mia, sai che cosa fa? Si rosicchia due spicchi d'aglio, sì, perché quando arriva a casa la degana, che è anche una bella ragazza, bisogna dire il vero, un bel momento lo annusa. Se sente odore di carne dice: con meno l'amore. Ma non è una barzelletta. No, però Aldo, sai chi sembra Aldo da Torino? Sembra Gambarotta. Sì, è vero. No, ma comunque è piemontese, questo accento piemontese è straordinario. No, no, però Aldo, raccontami bene questa seconda scena. C'è un amico che viene a casa tua, giusto? Sì, viene a casa mia, dopo che veniva a caccia con me, che ha rinunciato per amore della degana. Della vegana, però ogni tanto sgaiottola, viene a casa, sì, una sì volta ogni tanto, quando sa che mia moglie cucina delle prelibatezze, certo, sì, e si mangia due spicchi d'aglio prima di andare a casa. Perché se no, per ammazzare l'alito, diciamo, per ammazzare l'odore. Certo, se no, dice, se tu puzzi di carne, sei carne, non fai l'amore. Guarda che questa non è una battuta, non è una stupidaggine. No, ma è un dramma della contemporaneità. Anche per sbussare un po' tutto questo sistema della droga, perché non mi sembra anche una cosa giusta sempre parlare di quelle. Secondo me quello là ha seguito i consigli. Questa è una cosa seria, Giuseppe. Questa è una cosa seria. Serissima. Te lo dico in verità, questa è una cosa. In verità, mi fa paura, perché a me non me ne frega niente. I degani, perché guarda, bisogna anche guardare una cosa, Giuseppe. Che bisogna guardare? Quando tu vedi che questa gente qua, che adesso i sì topi, che salva sì le mosche, sì, che va, che protegge tutta questa marmaglia, le aragoste, di protegge eccetera, anche le aragoste. Non c'è più niente da stupirsi, eh? No, assolutamente. Figurati, mi stupisco se uno che è fidanzato, sposato con una vegana, torna a casa e per confondere i profumi si mangia due spicchi d'aglio. Per me, casa mia. Per me lui si mangia l'aglio perché pensa che l'aglio funzioni da Viagra. Sì, funziona l'aglio anche. Non senti più la puzza della lepre, eh? Sì, no, ma può funzionare anche come Viagra, ci ha detto un signore qualche tempo fa, ma quello non serve a niente, tutto è ballo, se lo mette a sedere lo spicco d'aglio. Senti un po' una cosa, dimmi ancora. Non è finito ancora. Visto che non ho tempo, perché il tempo da voi non mi pare che non hai tempo. Non mi pare che non hai tempo, hai 5 minuti che parli. 5 minuti di soliloquio, ma va bene. Però va bene, dimmi. Ma io ti ringrazio, Giuseppe, io ti voglio bene, vi stimo, anche Parenzo. Grazie. Ma Parenzo, volevo chiederti un favore grosso. Pronti? Non so se posso chiedergli. A disposizione, caro. Ah, assolutamente, Aldo, siamo allora, qui. Senti, Cruciani. Sì. Dilli a Parenzo, Gambarotta, considerato che è molto vicino. Sì. Ed è giusto, perché ognuno fa le sue scelte. Con i Rom. Sì. Nel... Molto vicino, cosa vuol dire? Come... Dai, lascialo parlare. Sì, ma è, no. Non è vicino ai Rom, si è bene, vicino ai Rom, sì. No, no, non è che gliene faccio una colpa, ognuno fa le sue scelte. Sì, ognuno ha le sue amicizie. Cioè, io so frequento Mauro D'Amanto, lui frequenta la comunità Rom italiana. No, non la frequento mai, bravo, per la verità, però non importa. Lui è il filo, senti Cruciani, lui è il filo diretto con i Rom, volevo chiedergli un favore. Io ho amministrato per 30 anni un comune, in provincia di Torino. Sì. Ho dato asilo sempre, temporaneo, alle carovane di Zingari. Sì. Sono sempre venuti e si sono comportati bene. Poche settimane fa sono andati a fare la visita ai nostri defunti. Hanno scoperchiato 33 tombe di famiglia, sportando via una decina di quintali di rame. E io cosa devo fare? I nostri cari li hanno lasciati alla pioggia, alle intemperie. Questo è molto brutto, però. Questo è molto brutto. Questo è molto brutto. È molto brutto, sì. No, molto brutto. Allora io dopo, Parenzo, potresti fare qualcosa? Tu, ma che non ho capito. No, tu, io capisco, capisco Aldo. Aldo sta dicendo. Giuseppe, senti qua. Un bel momento. Hanno terreno fertile tra quelli che, tra i viventi. Possono andare nelle case, ma almeno lasciate in pace i nostri Parenzo, defunti. Lasciate in pace i defunti. La settimana, il giorno successivo, tra sabato, la domenica e lunedì, che è successo? Un altro comune, un altro cimitero vicino. Hanno scoperchiato anche lì le tombe. Altre 13 tombe. Beh, portando via tutto. Anche pensa che hanno portato via perfino i portafiori in metallo, metallo pregiato, anche le scritte sulle tombe. Ma hanno cosa devo perfino... fare? Non ho capito. Aldo, ma ha ragione, Aldo, ma è una vergogna. Ma ha ragione, ma certo che è una vergogna. Aldo, facciamo Parenzo, scusa, tu che hai questi legami profondi, intensi, legame profondo, forti con le comunità rom italiane. Intervieni, te lo chiede Aldo, profondo, te lo chiede so Aldo, cosa che ha avuto la sua famiglia colpita da questa vergogna, profanata, le tombe profanate, i cadaveri lasciati all'aperto. Aldo ti sta chiedendo una cosa molto semplice, tu che hai questi, giusto Aldo, scusami se ti faccio portavoce delle tue, del tuo appello, no? Della tua, delle tue istanze. Esatto. È un piacere che gli chiedo a Parenzo, perché è un ti chiedo un piacere, è troppo buono. Guarda che a volte la bontà diventa un castigo per tutti. Devi essere più duro. Dille a questa gente. Non ho nessun tipo di possibilità di incidere su questa cosa che lei così gentilmente mi chiede. Aldo, giustamente ti hai identificato come una persona, come si dice in gergo, molto vicina alla comunità rom, no? Sei amico. Ecco, bravo. Allora ti sta chiedendo un favore. Siccome è stata profanata la sua tomba, rubati il rame degli altri. No, ma chiama, fai il promotore. I ladri, i Rom. E come fa? Se conoscessi un ladro lo denunzierei. No, chiama i portavoce, giusto Aldo, i portavoce della comunità, e di andate nelle case, ma lasciate perdere i morti, giusto Aldo? Sì, bravo, solo ma come quello. Andare nelle case? Mi sembra una cosa giusta, no? Ma come, di vai nelle case a rubare anziché... Sì, che roba, consiglia non pure, consiglia di andare nelle case a rubare, ma non di andare nei cimiteri a rompere i coglioni ai morti di Aldo. Mi pare che abbiamo dato anche molto spazio a questo simpatico Aldo, però... Caro adesso... Aldo, ti saluto, buona serata, stai bene amico mio, stai bene, rimettiti in sesso se hai qualcosa che non va. Benissimo, no, sta benissimo, mi raccomando il tuo amico più aglio la sera, così la moglie non ti rompe i coglioni, la moglie vegana. A presto. Questa è, come vi ho già detto in una precedente trasmissione, una informazione da O'Clockrat. La Zanzara. Programma non dovrebbe chiamarsi La Zanzara, è una linea erotica gratuita. Allora, caro Parenzo, c'è un ritorno qui alla Zanzara, però la situazione, da quello che so, è abbastanza drammatica. Allora, fermi tutti, bloccate le macchine, voi che siete alla guida in questo momento, camion, auto, taxi, eccetera, lasciate anche i volanti, lasciate le macchine libere di andare dove vogliono. Soprattutto toglietevi le cinture anche se siete in corsa, fate tutto quello che è consentito dal codice stradale, perché pare situazione drammatica. E con noi Maurizia Paradiso. Maurizia, come stai? Maurizia, salve, sto malissimo. Buonasera Cruciani, buonasera. Ciao cara, Parenzo. Ti abbraccio innanzitutto. Buonasera, ti abbraccio. Signora, allora, Paradiso, una cosa vergognosa, io so che vi volete bene e vi dichiaro questo. Allora, Il 2 di marzo, mentre mi accingevo a fare il primo ciclo di chemioterapie, sì, avevo appena finito il primo ciclo di chemioterapie ed ero in alimentazione a forzata, automatica, sì, sì, il signore Emanuele, questo ragazzino con la faccia d'angelo, l'unico che veniva in ospedale, era un mio fan, sì, che era innamorato di Maurizio Paradiso, ma probabilmente non ha mai capito che Maurizio è un ectoplasma. Che l'ideatore è Maurizio, qui esiste solo Maurizio, non Maurizio. Vabbè, se, okay, era innamorato di te, diciamo, no, da che... un ragazzo che era innamorato del mio personaggio, ha chiesto al mio parrucchiere Daniele Andrei di potermi incontrare perché ha visto i filmati su YouTube che faccio dal parrucchiere, si è presentato dal parrucchiere, l'ho incontrato, quanto mai gli ho dato il mio telefono, neanche, diciamo, stiamo parlando del marzo del 2015, giusto? Marzo. No, io l'ho conosciuto nell'ottobre del 2014. Allora lui è esibizionista, ha voluto venire nella mia trasmissione calcio in topless, adesso in vizi privati e qui è la prendeva. Vabbè, ma che è successo euro. Poi? Andiamo al soldo. È successo. Veniva tutti i giorni. Allora, su 7 giorni veniva a trovarmi 5-6 giorni. In ospedale. Quindi dico che Angelo, mia madre e mio fratello non sono mai venuti e qui è là. Finisco il primo ciclo di chemioterapia, prendo la scarlattina con la chemioterapia, mi si blocca l'uretra, non faccio più la pipì. Sì. E mi viene il mal di testa da rachicentesi, mi attaccano la morfina e tutto, gli faccio un assegno di 40.000 euro per pagare gli utenti, perché sennò viene fuori un macello. E questo è il punto fondamentale. Allora, sono gli unici soldi che ho. Io dico, ti raccomando, perché sennò io muoio, mi sono fidata, sì, ti pago io qui e lì e là. Ma lui l'ha pagato per un certo periodo. Lui ha versato il mio assegno di 40.000 euro dell'Unicredit, l'ha versato sulla Banca San Paolo, di Buccinasco. Sul conto suo e ha pagato. Scusa, Maurizio, ma ti pare normale? Ma ti pare, scusami, pure tu, perché no, eri in una situazione complicata, difficile. Sì, me l'ha detto anche la dottoressa, se ti pare normale dare 40.000 euro. Dai. Non potevi darglieli via via per ogni pagamento, scusa. Vabbè, comunque lasciamo perdere, gli hai dato un assegno da 40.000. Io ero in pericolo di vita, ragazzi, avete mai sentito parlare di prognosi riservata? No, certo. Sì, certo. Vabbè, prognosi riservata vuol dire che puoi vivere o morire da un momento all'altro, o sbaglio? Guarda, qui davanti a me ci sono due signori, del soccorritori, autista soccorritore della Croce, cosa c'è scritto lì? Ecco, che mi stanno ascoltando, come si chiama la Croce? Vabbè, Croce Verde, Santa Croce Azzurra. Soccorso. Ecco, io ero un prognosi riservata, era l'unica persona che avevo accanto in quel momento, e gli ho dato questi soldi, ma lui mi ha pagato alcune bollette, mi ha pagato l'amministratore di Tremezzo del Lago, mi ha pagato, fino ad arrivare, che mi erano avanzati, 32.800 euro. Cioè 8.000 li ha spesi per le tue utenze, per le cose. 7.000 e qualcosa. A giugno lui si è licenziato da dove era, perché ha litigato con una certa Katia. Vabbè, perché ma lui questo non ci interessa. In un negozio, sì, di bollette di gas e di luce. Vabbè, dove si ed è scappato coi e soldi. Ha aperto il suo ufficio a Buccinasco. Con quali soldi? L'ha chiamato Paradiso Group. Paradiso Group l'ha chiamato, ha usato il mio cognome, tra l'altro. Cosa succede? Ha preso il negozio e ha pagato i 6 mesi di cauzione con i miei soldi, ha dato i 3 mesi anticipati con i miei soldi, ha comprato i mobili all'IKEA con i miei soldi, ha comprato il computer con i miei soldi, io non sapevo niente. Ma scusa, che negozio era questo qua? Di che cosa? È un negozio di bollette del gas, di luce, si chiama Paradiso Group ed è a Buccinasco. Andate a cercarlo, lo trovate. A Buccinasco. Vabbè, lui ha usato i tuoi soldi per aprirci un negozio. E non mi ha detto niente. In agosto mi ha anche chiesto se potesse venire con me nella mia casa sul lago, perché io avevo appena finito le chemioterapie, sono andata a Tremezzo, nella casettina che mi sono comprata tanti anni fa sul lago, e me lo sono pure digerito lì. Questo piccolo personaggio strano che ogni volta che andava in bagno a cagare stava dentro 3 ore e usava un rotolo intero di carta igienica. Perché faceva la cacca così a lungo? Ha chiesto chi se ne frega. Non lo questo. So. Ma si può usare un rotolo intero di carta? Ma questo mi sembra ininfluente. Non finiscono mai. Però, ma chi se ne frega rispetto ai soldi che ti ha preso? Mi sembra totalmente ininfluente questo rotolo di carta igienica. Poi che è successo? Adesso cosa succede? Succede, io me ne accorgo. Quando te ne accorgi? Allora, ve lo dico, avete 2 minuti di tempo? Sì, vai tranquilla. Allora, vai. Intanto saluto tutti i vostri amici che ci amano e ci odiano. Perché Maurizio Paradiso, Cruciani e Parenzo, o sono amati o sono odiati. Vabbè, adesso facciamo un po' di distinzione. Noi preferiamo essere odiati. Ma tutt'altro, ma perché? Vabbè, comunque. Vabbè. Insomma. È bene. In parte è bene, dai. Poi cosa succede? Questo non mi dice niente. Quindi passa agosto. Sì. A settembre si prende altri miei soldi. Ma la cosa vergognosa è che cinque settimane fa, io avevo dato un mio impianto per cantare, a un cantante, sì. A un cantante a tu un dai cantante. Cose a tutti, dai cose a tutti, così grande no, generosità. E doveva pagare, e doveva sono generosa perché non ho mai avuto una famiglia, comunque, e mi fido della gente. E questo signore non ha potuto pagarmelo, io, mi aveva dato 850 euro d'acconto. Vabbè, ma andiamo al sodo, quando hai scoperto che no, questo ti ha rubato no, i soldi? Questa è, la, questa è una cosa bella che dovete sapere. Emanuele, mi ritiri 850 euro dei miei soldi, che sì. glieli ridò a questo personaggio, certo. E tutto sono andato dai carabinieri. Emanuele, dai carabinieri. Ti dico subito anche il paese, i carabinieri di che? Il cantante. No, non c'è tancato Buccinasco. Buccinasco sono questi. Vabbè, ma ho capito, ma andiamo. Aspetta, vabbè, con chi stai parlando? Dai carabinieri di Melzo. Melzo. Emanuele chiede se può uscire per andare a ritirarli col bancomat. Ce li aveva già in tasca perché i miei soldi erano spariti. E poi suo padre mi ha detto glielo dato io. D'accordo, allora dunque la, famiglia, cioè, la sostanza la è questa, che lui ti ha fregato i soldi, questo è il punto. Io l'ho saputo il 21 di dicembre il 20, allora l'ho 30.000 euro quanti soldi ti ha fregato? Quanti soldi ti ha fregato? Il 22 mi ha fregato 32.800 euro. L'hai denunciato o no? L'hai denunciato o no? Oggi ho depositato la denuncia ai carabinieri Greco Milano. Bene, va bene, ma hai capito, il tu mio avvocato, sei... il mio avvocato si è proposto di difendermi gratis perché ha detto Maurizia, se non hai più risparmi come fai a pagare? Ma non c'hai più un euro tu? Tu non hai più un euro? No, attenzione, adesso mi arriva lo scoop. Allora, il mio avvocato ho detto, non si preoccupi, dottor Gianni Dallera. Sì. Io mi sono iscritta a un sito di prostituzione già lunedì. No, scusami. Allora, Maurizio, cioè, tu stai dicendo che siccome sei rimasta senza un euro, dove hai passato il Natale? Allora, il Natale dove l'hai passato? Adesso andiamo alla prostituzione. Il Natale dove l'hai passato? L'ho passato sola in casa a piangere, dove volevo uccidermi con le pastiglie delle chemioterapie che ne prendo 7-8 al giorno. La Ciclovir, il Pariet e tutte quelle pastiglie che mi danno. Volevo uccidermi. Avete capito? Io ho passato sempre i Natali da sola, però volevo togliermi la vita, ma siccome la vita col cazzo che me la tolgo, hai capito? Perché la vita è bella, va vissuta in qualsiasi maniera, e lo insegnate anche voi tutti i giorni parlando con la gente, che la vita vale la pena di essere. Assolutamente, allora? Ecco, e allora cosa succede? Faccio una riunione con un testimone, Fabio Caimi. Vado a Vabbè, se non c'è bisogno di stare nomi, però scusami, Maurizia, scusa un attimo, io allora, devo riportare l'ordine qui. Allora, no, tu hai raccontato benissimo tutta la vicenda. C'è un signore che si è avvicinato a te, io la riassumo brevemente. C'è un signore che si è avvicinato a te. Signore, c'ha 22 anni. Vabbè, un ragazzino di 22 anni che a un certo punto tu gli hai dato fiducia, eri in una situazione complicata, le chemioterapie, eccetera, eccetera. Veniva a trovarmi in ospedale. Bene, d'accordo, abbiamo capito. Gli hai dato un assegno di 40.000 euro e questo qua se n'è intascato per farsi i cazzi suoi 32.000 rotti. Questo è il punto fondamentale. Mi ha pagato le cose che dovevo pagare. Ho capito. E mentre me li ha rubati veniva in ospedale, è stato anche sul lago Comè invitando le sue sorelle. Vabbè, questi sono tutti dettagli. Però la Veronica, ma chi cazzo è? Ma chi le conosce sta gente? Comunque però scusami Maurizia, allora tu l'hai denunciato e tutto. Sei rimasta senza un euro, ma veramente non hai proprio un euro, ma come fai a mangiare? No, allora mangiare come fai? Come faccio a mangiare? Ragazzi, mi trovo in un posto dove si mangia in questo momento, sì o no? Sì. Ho i soldi per mangiare? No. Prima ti ho chiesto se mi pagavi la cena? Sì. Tu cosa mi hai risposto? Sì. Il signore del soccorso mi sta pagando la cena a 7 euro. Cioè vai a girare per che cosa? Dove giri? No, però vengo qui di Alessarca dove abito io. Ecco, vengo qui dalla FEI. Dove mangio da anni, pago 7 euro per mangiare primo, secondo e contorno. Allora io adesso mi sono iscritta. Ma la malattia come va? La malattia come va? Sono fuori dalla grazia di Dio. La malattia, la leucemia è regredita. Ma guarda cosa mi è successo. L'altro giorno vado nel negozio di suo padre, nel negozio di ottica, dove c'è un negozio in centro di suo padre. Chi ha di questo qui? Di questo ragazzo. Il papà di Emanuele. Sì. Allora, ma sono talmente tanti nomi che sembra Dostoevskij. Il papà di Emanuele, chi mi ha rubato i soldi è Emanuele. Il papà di Emanuele, che mi ha promesso che se avevo bisogno mi dava qualcosa. E invece? Può darmi 21 euro, così mangio per 3 giorni. Niente, mi sono sentita male. Grazie, ma sei andato in ospedale? Ho letto da qualche grazie parte. Grazie per mangiare, ragazzi, grazie. Sono andato in ospedale e mentre ero in ospedale la mamma. Ma com'è che sei andato in ospedale? Ti sei sentita male? Che è successo? Sono svenuta, sono caduta per terra. Ma per la leucemia o per quello stress? No, perché ho lo stress e i neutrofili bassi. Cioè, quando una persona ha avuto una leucemia. Importante che sia regredita. Allora, raccontami la storia della prostituzione, però. Tu ti sei iscritta a questo sito? Allora, c'è un sito famosissimo in Italia come si dove vanno quelle di lusso. Sì. Si chiama si chiama Arcaton. Lo sappiamo tutti e lo conoscerete anche voi. Beh, ecco, no, io no, sulla no. pagina, ecco, sulla voce Escort, anche copertina, troverete Maurizia Paradiso. Sì, ok, c'è... perché io non ho i soldi per mangiare, quindi io do via, io do via. Ho capito, ma non culo, sei... sì, io ma do quest... via il culo, vabbè, è quello, lo so, lavoro del mio dentista e faccio dei pompini. Vale, della ma ferma, abbiamo capito questo qua adesso. Questo l'abbiamo capito, Maurizia, adesso. E siamo andati tranquilli fino adesso. Adesso hai sbroccato così. Lo sappiamo quando uno fa. Quando uno fa la prostituta, guardate, sappiamo, che cosa, guardate, sappiamo. Guardate, non c'è problema, c'è un signore che sta mangiando un piatto di pasta. Signore, lei sarebbe disposto a pagarmi da mangiare stasera? Perché io sono stata derubata sotto chemioterapia e non c'ho una lira. Mi dà 7 euro per mangiare, sì o ma no? Ma tu ti chiede? Ma cosa fa? Ecco, lei si chiama di nome? Fabio. Signor Fabio, mi ha detto di sì, sentiamo questo signore. Signore, lei mi darebbe 7 euro per mangiare? Un sondaggio. Sì. Ok, ecco, aspetta, sentiamo sì. questo signore. Signore, sono stata derubata, non ho più soldi per mangiare. Okay, però vedo che lei ha un piatto, l'ho mangiato in due, quindi è povero. L'inviata mi dà 7 euro per mangiare? Sì. Sì, allora qui dalla bar della FEI mi danno tutti 7 euro per mangiare. Senta, signora Paradiso, qual è per lei la notizia del giorno? Cioè, ma la notizia del giorno è... C'ha un euro, manco per magliare chiede la notizia del giorno. Non so, chi non avrà letto un cazzo, non avrà visto un cazzo. Ma sì, ha letto tutto, Maurizio Paradiso. Qual è il tema del giorno? Il tema che l'ha più, come dire, le ha più destato interesse, signora Paradiso? No, il tema che mi desta più interesse sì. è ogni sì. volta che vedo la faccia di Renzi mi viene la diarrea. Vabbè, però questo non è una notizia, però questo sì, ma questo è poco, ma è sicuro. Ma cosa c'entra questo? Gli attentati di Istanbul, le state varie che si ammazzano tra beduini, ma se vadano a fare in culo e non si rompano i coglioni, scusi. Questi quattro beduini ma che scombano i cammelli. Ma che roba è? Ma non è un editoriale stile Sole 24 Ore, questo qui, signora Paradiso, scusi. Ma attenzione, io Sole 24 Ore lo leggevo quando ero una radical chic. Quando ero una radical chic ero sì. sposata con il Claudio Tajana di Lugano e quindi quando sì. andavo a cagare ero obbligata a leggere il Sole 24 Ore. Ma come si prepara? Una cosa imbarazzante comunque, vabbè. E perché e voi quando andate in bagno non leggete un quotidiano? No, leggiamo iPad. Vi masturbate anche mentre dei no, cante? No, noi guardiamo le notizie se... da cespuglio. Ma che era cespuglio? Però vedo che è ancora in forma, nonostante le disgrazie vedo che è ancora. Ma il fatto che il Senato sia stato comunque, ad esempio abolito, no? Il Senato è stato abolito. Perché è abolito il Senato? Perché c'è un Senato in Italia? Sì, c'è il Senato della Repubblica. L'unico Senato che io vedo in Italia quando mi levo la maglia, che sono due tette della Madonna e me ma ne no, scusa. È ancora in forma, è ancora in forma. La signora Paradiso è ancora in forma. Però, ora veramente ti vuoi prostituire perché non è più un euro, Maurizio? Alta. Andate su Arcaton. No, ma veramente ma non si va su ho capito, allora, ma tu hai un problema di salute, cioè non puoi prostituirti così facilmente. Cioè, allora, se non ma i capelli ti sono ricresciuti o no? Ce li ho alti 2 centimetri. Vabbè. Allora, se non mi prostituisco non posso più mangiare. Adesso a parte gli scherzi, ma stai dicendo sul serio? Stai dicendo sul serio? Per colpa di questa famiglia di Buccinasco. Vabbè, lo sappiamo, abbiamo detto. Di Buccinasco sì. che il padre ha un negozio di ottica. Vabbè, ma adesso non ci fare querellare da tutti, amica mia. Ottica Emilia. Io ma che ne sappiamo noi di queste robe, mamma mia. Chi me li dà i soldi per mangiare? Abbiamo appena sentito che dei signori qui al bar hanno detto di sì. Sì, ho capito. Comunque, la notizia è questa. Maurizio Paradiso, io mi prostituisco perché mi hanno rubato tutti i soldi. No, io mi prostituisco d'altra per parte, mangiare. La prostituzione, amica mia, non è lontana dalla tua vita, diciamo dirlo. Cioè, non è che non ti sia mai prostituito. Ma anche voi due, Parenzo Cruciani, siete due grandi mignotte. Sì, tutti siamo mignotte. C'è un famoso libro. C'è un famoso tutti libro che ha come titolo Siamo tutti puttane. La signora no, Chirico, le puttane certo, sono gli uomini, sì. veramente. Perché oltre che concedersi e eiaculare, paga. Va bene, d'accordo. Quindi, io trovo che siate molto più puttane voi uomini. Può essere, poi ha sentito. Signora Paradiso, ha sentito del caso di Quarto, no? Del sai del che sindaco cos'è il caso di Quarto? I 5 Stelle. Sai niente? Di Quarto Sant'Elena, in Sardegna. No, beh, capito, non lo no. sa. Sa del problema delle emissioni oltre i limiti della Renault? No, io uno scandalo ho sentito che si sono picchiati con un emirato arabo perché ha regalato dei Rolex e poi dei cronografi. No, non c'è. E quelli del PD si sono ammazzati per avere i Rolex. Eh sì, quello sì, quelli del PD non sono del PD, in realtà. Della Banca Etruria, ha sentito della vicenda della Banca Etruria? Ma della Banca Etruria è uno scandalo, i risparmi della povera gente sono stati usati. Adesso Renzi ha avuto il coraggio di dire che ridarà i soldi alla gente. Bravo, allora, certo. Adesso io non so quante guardie del corpo. Senti, ma invece di quella americana che è stata ammazzata dal senegalese clandestino? Ah, hai sentito? Sì, la ragazza a Firenze, americana bionda. A Firenze, sì, appunto. Eh no, ma adesso ragazzi, ma cosa, qui viene fuori un casino, eh? Beh, sì, con questo non c'è dubbio. Grazie adesso, Maurizia. Adesso oh. Sto negro che si è scopato. Ma stiamo tranquilli. Maurizia, ti saluto, ti abbraccio, mi raccomando però, la prostituzione, sei sicura? Incontri brutta gente. Allora, andate sul sito e vedete, non sto raccontando male. Ciao. Però solo per mangiare. Ciao Maurizia, ciao. Ciao. Perché sei un testa di cazzo proprio. Perché il tuo atteggiamento non mi piace. La Zanzara. Attenzione, ma anche voi due, Parenzo e Cruciani, siete due grandi mignotte. Tutti hanno il loro modo di prostituirsi. Allora ragazzi, andiamo a Firenze, Umberto. Vai Umberto. Ciao, ascolta. Io volevo innanzitutto dire che fondamentalmente Carmelo, il napoletano lì, quell'altro signore di Milano che gestisce il club, hanno ragione. Carmine, siccome ha chiamato un'ora e mezza fa circa, voglio ricordare che ci ha chiamato uno che dice di fare un uso quotidiano di cocaina, un autotrasportatore. Quello è top. Sì, sarà pure top, insomma, top per se stesso, forse, non per noi, naturalmente, per il nostro stile di vita, almeno il mio stile di vita. Giustamente questo succede quotidianamente. E poi ha detto che la cocaina è ovunque. Sì, la cocaina è ovunque. E poi ci ha raccontato anche, perché lui frequenta la notte, così dice, che è normale che le donne, per, no, in cambio di, diano sesso in cambio di cocaina. Umberto, cosa vuoi dire tu su questo? Io fondamentalmente volevo dire che non è che è normale che le donne diano sesso in cambio di cocaina. La questione è questa, è che magari una ragazza che ha 20 anni, 19, 25, 27, dai 30, anche 40 ci sta, non è detto che non lo fa, che non ne facciano uso. Probabilmente lo fanno perché per evadere, per trovare, che ne so, magari la serata piacevole finisce ancora meglio. Però secondo me non è stato il caso di questa ragazza qui di Firenze, perché io comunque io sto a Prato, però la giro e che succede? Notte. Ma è sotto gli occhi di tutti che comunque spacciano a destra e a sinistra in qualsiasi locale. Cioè, ma se oggi la Digos, ma che ne so, ma qualsiasi tipo, vabbè, allora, tipo la polizia allora va a cercare la cocaina in Italia, ne trova a fiumi. Non c'è dubbio. Dunque, quindi di conseguenza è evidente che questi pippano coca a nastro e questi gliela vendono e danno anche sesso. È normale, perché lei, se avesse il potere di dare qualcos'altro in cambio a uno spacciatore, sì, ma non c'è dubbio, non ci andrebbe a letto? No, io no, però insomma, vabbè, se lei fosse donna mettiamola così, ma non lo so, e ma può non magari so. E può, ma ah no, faccia un oggettivamente in maniera intelligente, lei la darebbe o no per la cocaina? Ma non lo so, se fosse dipendente dalla cocaina è probabile che lo farebbe. E probabilmente anche questa ragazza non lo posso classificare come cocainomane, non lo so, ci sono le analisi che devono essere fatte. Come fanno impazzire questi tenenti Colombo? Non è questione di tenente Colombo, Umberto. Se va a Monte Carla, dove vai? Al Monte Carla, il locale, sì. La sera lì ci fanno after, no? Sì. Cioè, ma di solito se uno va al Monte Carla cerca sicuramente stupefacenti. No, ma questo è vero. Sì, ma non è detto che sia cocainomane questa qua. Magari no, ogni non tanto è detto che sia cocainomane, però magari ogni tanto una sniffatina se la fa. Però sì, e non è detto nemmeno e non è detto nemmeno perché non è stato ancora provato che abbia voluto scopare con il tizio perché in cambio di cocaina. Non è ancora accertato, diciamo, lo state dicendo voi, ma non è accertato, diciamo, no. O no? A questo punto questa si è fidata. Ma non lo so, magari gli andava di farsi uno, punto e basta. Ma io te li farei vedere sta gente qui. Ma ascolta, beh, quello io ho visto le foto. Ho visto le foto, si presentava bene questo qua. Ma come si presentava bene? Ma l'hai visto bene? Beh, ho visto che era vestito tutto di nero, slanciato. Sì, alto. Vestito tutto di nero, ma si possono vedere. Cioè, non si vabbè, non si possono vedere per te, magari per lei no. Scusa, abbi pazienza. Ma nemmeno per lei, ma perché probabilmente loro hanno questa mentalità così, gli americani, loro gli importa una sega. Però il problema è che se te glielo fa fare una ragazza, io ti trovo una ragazza su 10 che va con questa gente qui italiana. Quante ce ne sarà? Non lo so, non lo so, non ho idea. Ma pochissimo. Va bene, ma Umberto, grazie, dire. Ciao. Antonio, grazie, Milano, vai, Antonio. Antonio? Pronto? Vai, dimmi, pronto? Dimmi, dimmi. Siete la spazzatura radiofonica italiana. Sì, bene, questo lo sappiamo, questo è sì, abbastanza dico. Evidente, l'hai già detto una volta, poi? Ecco, e poi io volevo dire che la Dursa oggi è stata scandalosa. Perché? Per quanto riguarda quella ragazza 19enne che è morta. Perché? Ma si stava parlando di un omicidio di una bambina, o un bambino, quello che sia. Ma di che stai parlando? Dell'aborto? Dell'aborto? Sì. Ma è una cosa scandalosa. Si stava parlando di che cosa, scusa? Non ho seguito la Dursa, me lo stai dicendo tu. La ragazza che è morta la 19enne, no? Sì. E stava abortendo ed è morta. Ed è morta durante l'aborto, sì. Ci sono stati dei esatto. casi... No, però durante ha parlato dell'aborto. Cioè, voglio capire... Che vuol dire, scusa? L'aborto per fortuna è legale in Italia, amico mio. Certo che è legale, però si può anche parlare in un modo più rispettoso. Cioè, fa notizia perché è un caso, per fortuna, talmente raro che una persona muoia dopo un intervento di quel tipo, che quindi fa notizia, allora, purtroppo. Guarda, non ho capito che cosa ci stai dicendo. Non ho capito l'obiezione. La mamma, non so chi era, la sorella, non so, ha detto, ma perché doveva essere un intervento da pochi, in 5 minuti si abortisce, e la Dursa non dice nulla. Ma scusate un attimo, è una vergogna. Ma che cosa? Ma mica... no, scusami un attimo, evidentemente... Un bambino. Sì, ok, a parte che è morta anche la madre. Però, Antonio, scusami un attimo, qual è il punto? Tu sei contrario il all'aborto? Punto... Evidentemente sei contrario all'aborto? Ma sicuramente sono contrario all'aborto. Vabbè, d'accordo, sei contrario all'aborto, d'accordo. Allora... Però un po' di rispetto per l'uccisione di quel bambino o bambina, per cortesia. Guardi che è morta anche la madre, però. È morta la madre, ma magari sarà stata al Dio. Cioè, Dio tu stai punisce, dicendo che Dio punisce. Dio punisce. Ma tu Dio sei punisce. Completamente pazzo. Povero. Ma tu sei un malato di mente. Povero pazzo. Ma tu sei un fanatico pazzo. Dio ha punito la ragazza per l'aborto. Ma tu... chi lo sa? Chi lo sa? Io non lo so. Sì, non lo sa. Lo stai dicendo. L'unica cosa dai. Che sappiamo è che lei è un idiota. Questo è l'unica cosa certa. Una rara certezza che c'è. Non abbiamo grandi certezze. Questa però è una di quelle. Allora, Parenzo, sarò pure un idiota. Però quello, l'aborto è un'uccisione. Se certificato, se ragazza... idiota certificato. Vabbè, allora, con la coltiva. Antonio, guarda, veramente mi hai schifato, guarda, con questa cosa qua. Dio che ha punito la ragazza per l'aborto. Magari ha punito anche i medici, ha punito pure i medici che l'hanno praticata, che ne so. Se uno non vuole un bambino, non c'è bisogno di ucciderlo. Lo fai nascere e poi lo dai in adozione. Sì, ma è un discorso molto lungo. No, non sono d'accordo. Io sono a favore dell'aborto, punto e basta. Sono allora a favore dell'aborto. L'aborto. E infatti me lo tengo stretto. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Caro Parenzo, la zanzara va alla scoperta della nuova frontiera delle relazioni umane, il poliamore. Pensavo ci fosse Sigmund Bauman. Poliamore, la scoperta delle nuove frontiere delle relazioni umane. Ripeto, vorrei aderire al poliamore, magari aderirò in futuro. Per adesso molta incertezza, però abbiamo sentito nei giorni scorsi un tizio che si chiama Luca Boschetto alla trasmissione di Nicoletti enunciare le sue teorie sul poliamore. La maggior parte degli studi concordano che la monogamia culturalmente insegnata è più di facciata che reale, in quanto la maggior parte delle coppie poi si tradiscono. Tutto parte da questo. Poi ospite da noi è stata anche la signora Giorgia Morselli, che è ancora alla ricerca del poliamore. Questa sera abbiamo una testimonianza che è di Elisabetta dal Piemonte, da una città imprecisata del Piemonte, che saluto. Buonasera, buonasera. Ciao Giuseppe, buonasera a tutti. Ciao, ciao Elisabetta. Buonasera signora Elisabetta. Allora, grazie. Io voglio capire, lei ha più di 40 anni se non sbaglio, no? Non diciamo esattamente. No, va bene, non si dice l'età delle No, persone, allora si può anche dire. Quanti anni hai? 43 anni. Figli? Figli due. Due figli, due sposata? Figli, sposata. Sì. Sì, sono sposata, vivo con mio marito da 23 anni. Da 23 anni? Ma esatto. Quando hai scoperto il poliamore? Perché tu praticamente da qualche anno pratichi il poliamore. Sì, diciamo che l'abbiamo scoperto per caso. Cioè? 5 anni fa, praticamente mio marito mi dice, ma vuoi fare un massaggio, conosco una persona, probabilmente lui conosceva un po' meglio questo mondo rispetto a me. E quindi ho fatto questo massaggio, io ero nuda e lui praticamente ha assistito al massaggio di questo massaggiatore, insomma, sì. Che mi ha fatto E da lì è scoppiata. Ma il messaggio, il massaggio è finito lì o è proseguito facendo il del sesso? Il massaggio è finito lì. E poi? Chiaramente c'è stato un mio imbarazzo, perché essere nuda davanti a mio marito con un altro uomo che mi toccava è stato, insomma, particolarmente imbarazzante, nel contempo eccitantissimo. Quindi siamo usciti da lì, diciamo, storditi. E poi vi siete parlati? Poi ci siamo parlati, una settimana dopo eravamo lì e la situazione si è conclusa in modo diverso. Cioè la settimana dopo ti ha riportato dal massaggiatore e stavolta, esatto, diciamo, praticamente hai scopato col massaggiatore. Esattamente. Davanti a lui? Sì. Davanti a mio marito. Davanti, esatto, a tu. Dunque, quello guardava? Il marito guardava, certo. Io vorrei Adinolfi. Sì, la prima volta sì, dopodiché invece ci siamo tornati una terza volta, perché questa cosa ci aveva... No, no. Datemi Adinolfi, regia. No, datemi immediatamente Adinolfi. Ma che c'entra adesso? Stiamo parlando. Datemi Adinolfi. No, aspetta, aspetta, aspetta. Datemi Adinolfi. Ordino di darmi. No, ragazzi, ma il poliamore è una cosa seria, non può essere. Voglio sentire un attimo Adinolfi, 30 secondi. Sentilo 30 secondi. No, dopo, più avanti, dai, più avanti, che insomma è Adinolfi. Adesso te lo faccio sentire, però. No, non voglio Adinolfi, perché ci sta in questo momento. Elisabetta, scusami un attimo. Allora, sì, la cosa è nata. A un certo punto avete cominciato regolarmente, immagino, a scopare in tre, o sbaglio? Sì, esatto. Sì. Esatto. Voglio dire, questa cosa qui, perché il poliamore non è il sesso, no? Assolutamente giusto? No. Cioè, poi... avete instaurato una vera e propria relazione? Cioè, tu ti sei innamorata, allora, di questo o no? No, assolutamente no. Diciamo che questo è stato solo un inizio che ci ha fatto scoprire il mondo del sesso con altre persone. E vabbè, quello però è una cosa che magari, esatto, fanno anche quelli che non praticano il poliamore, cioè il, che ne so, lo scambismo, certo, eccetera, eccetera. No, però il... diciamo che da qui è partito, diciamo, è scappato qualcosa di diverso da quello che è l'amore esclusivo tra due persone. E adesso che cosa fate, per esempio? Adesso, ad esempio, c'è una persona che conosciamo, che frequentiamo da oltre un anno e mezzo, così. Uomo? Un ragazzo, un uomo, sì. E quindi questa persona la frequentiamo, andiamo a cena fuori, andiamo in qualche locale, sì. Non è della nostra zona, noi ci spostiamo magari per lavoro, ci incontriamo con lui, oppure tante volte io lo incontro da sola, usciamo io e lui, oppure... Sì. Ecco, quindi... Cioè lo incontri anche tu da sola, diciamo la verità, ci scopi da sola, cioè, o no? Ma non so. Non sì, sempre. Certo, non certo, ma non esclusivamente, ci divertiamo anche ad andare in qualche locale magari particolare anche di a Milano, che sono divertentissimi. E quindi la sera magari poi si ritorna a casa. E c'è anche tuo marito a casa? A volte sì, a volte no. E dormite in tre nello stesso letto? Dormiamo in tre nello stesso lettone, ci svegliamo, andiamo tutti a lavorare, fantastico. No, allora, la cosa fondamentale è questa. Molti dicono questo qua non è il poliamore, ma è invece orgia, scambismo, eccetera. Allora, che cosa è che distingue? Invece tu sei convinta di essere, siete convinti di essere poliamorosi, o no? Beh, diciamo di sì, perché non c'è esclusivamente sesso, ma c'è anche del divertimento, abbiamo delle affinità, condividiamo delle cose che... Ed è tutto trasparente, diciamo, cioè vi dite e vi raccontate, sì, tutto. Assolutamente sì, c'è mio marito che magari esce con delle altre donne, io lo so, queste donne io le conosco, le frequento anche, lo viviamo liberamente. E il sesso, non c'è gelosia in tutto questo? Assolutamente no, anzi. Hai eliminato la gelosia? Sì, chiaramente alla base di tutto ci deve essere una forte fiducia, una grande complicità e assolutamente tantissimo dialogo. Insomma, dobbiamo essere assolutamente liberi, aperti. Nel momento in cui uno nasconde qualcosa, chiaramente... Gli equilibri cambiano completamente, non credo si possa più parlare, sì, di rapporto, di poliamore. Parenzo, te lo posso mettere, Parenzo? Lo devi vuoi mettere? Metterlo, devi metterlo, chiedo di commentare. Mi piace un mondo così? A me fa cagare un mondo così fa cagare. Perché ti fa cagare? Scusa, Davide, detto, spiegami. Ho usato le parole dell'amico Marione Adinolfi perché, perché appunto, come è stato detto testé, un mondo così, dai. Ma non ho capito, un mondo così in teoria... Se lei è premesso che se lei sei è felice... Sei felice, Elisabetta? Beh, evidentemente sì. Assolutamente, mai stata se a lei felice. Piace così, bene così. Cioè, a lei non interessa che il marito vada con altre, soprattutto ha attrazioni e passioni. Ti eccita proprio, naturalmente. Ti eccita moltissimo vederlo scopare con altre, no? O sbaglio? Assolutamente sì. Oh, benissimo. Assolutamente sì. Sei innamorata di tuo marito? Ogni tanto provi delle passioni per altre persone, sì. Passioni non solo sessuali, anche intellettuali, eccetera. Soprattutto. Ma questo è perché uno si deve limitare in queste cose. Esatto. Hanno deciso di non limitarsi. Il mondo non è la monogamia, non è ristretto nella monogamia. Oh, ma mica voglio condurre il reato io, Comunque, la nostra inchiesta, caro Parenzo, continuerà. Il poliamore si possono aggiungere tante cose. Domani scoprirai. Io ringrazio Elisabetta. Sì. Grazie a voi. Che non ci dice da dove chiama, però, evidentemente. Ma non questo... si può dire. Ha anche due figli. I due figli sanno? No, assolutamente anche no. Se... ecco. Tabù borghesi. Ma che c'entra quello? Ma che c'entra? Non è difficile. Non potrebbero capire i tabù borghesi. Comunque. Ciao Elisabetta, ciao ragazzi. Grazie mille. Ciao. Poliamore forever. Parenzo, sto per aderire, Parenzo. Salvaci tu. Domani 18:30, ciao. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Ormai è tutto degradato. Radio 24. La passione si sente.